quest'ora di avere un relatore d'eccezione, l'onorevole Bonitutti, al quale siamo molto debitori per quel che ha fatto per il mondo della cultura e della scuola come ministro della pubblica istruzione. È uno dei pochi ministri della pubblica istruzione che ricordiamo con riconoscenza e con affetto, veramente. L'onorevole Bonitutti e il professor Bonitutti, che come sapete ha dietro di sé una vasta attività come rettore dell'Università per Stranieri di Perugia. E lo studioso Bonitutti, che occupa veramente un posto eminente nel mondo degli studi e soprattutto in particolare in quella storia della cultura che è l'oggetto della redazione d'oggi. Non mi voglio diffondere e lo prego, voi conoscete già, è vero, l'argomento: origini e presupposti culturali del nazionalismo in Italia. Io ringrazio vivamente l'amico professor Valsecchi per l'invito che mi ha rivolto e per il saluto onora che ha voluto così cortesemente tributarmi. Io sono veramente un relatore di eccezione, ma in un altro significato. Non appartengo alla confraternita, alla nobile, alta confraternita degli storici, ed è con un certo timore reverenziale che io confesso di avere accettato l'invito molto generoso dell'amico professor Valsecchi, e ora sono qui a svolgere la mia relazione. Io ho grande ammirazione per i nostri storici, mi sembra un po' di essere un usurpatore svolgendo la relazione che così generosamente mi è stata affidata. Il tema è quello che orora ha specificato il professor Valsecchi, tema molto rischioso perché lo si può svolgere molto genericamente, ma se si vuole approfondirlo, ovvero è un tema molto ampio e sfuggente, origini e presupposti culturali del nazionalismo in Italia. Io, proprio per il timore reverenziale al quale mi sono dianzi riferito, mi sono dedicato allo studio dell'argomento con forse, come dire, uno zelo da neofita che non sembra buon consigliere. Ho visto, ho letto tante cose che ignoravo ed ho appreso tante cose. La mia relazione è così nata un po' forse troppo ampia, perché ho voluto approfondire, come dirò tra poco, il tema assegnatomi. Non vi leggerò tutta la relazione, sarebbe di cattivo gusto, vi leggerò le parti più significative, quelle che io ritengo più significative. Devo però premettere un cenno rapidissimo di quello che non leggerò. Io ho voluto ricercare i presupposti culturali non del vario nazionalismo che fiorì in Italia agli inizi del secolo, in uomini e con idee varie, ma solo quelli di quello che io ho chiamato vero nazionalismo, cioè di quel nazionalismo che, nucleandosi al vario nazionalismo, si diede un programma, elaborò una dottrina e creò uno strumento organizzativo con cui operò nella vita politica del paese. Il vero nazionalismo nacque in Italia, si definì più esattamente in Italia, assunse la sua precisa fisionomia nel congresso di Milano del 1914. E di questo vero nazionalismo, ripeto, io ho voluto ricercare le fondi culturali. Una parte della mia relazione è appunto dedicata alla formazione, al processo formativo del nazionalismo vero. Un'altra parte, quella immediatamente successiva, è un'analisi della, dirò, della teoria delle fondi del nazionalismo, delle fondi culturali, perché ci sono due gruppi contrapposti che si sono formati sul piano storiografico proprio nella ricerca delle fonti culturali del nazionalismo italiano. Ci sono quelli che ritengono che le fonti siano indigeni, prevalentemente indigene, autoctone, e quelli viceversa che ritengono, che sono poi i più numerosi, che ritengono che le fonti culturali del nazionalismo italiano siano straniere, prevalentemente se non esclusivamente straniere. Io noto nella relazione che in realtà queste due tesi nello sfondo hanno una ragione politica, nel senso cioè anche se non precisamente avvertita, che quelli che considerano il nazionalismo italiano come imitativo ed esterofilo sostanzialmente danno risalto, diciamo, a quello che di arbitrario, di artificioso ci fu nel nostro nazionalismo. Viceversa, quelli che cercano di collegare il nazionalismo italiano a fondi indigeni, fondi autoctoni, in una certa misura tentano a rivalutarlo, a vederlo come un fatto positivo che nasce dalle viscere stesse della storia e della cultura italiana. Io dico che ambedue queste tesi interpretative sono sbagliate, quantomeno metodologicamente sono sbagliate, perché il nazionalismo fu un movimento europeo, e anche l'Italia faceva parte dell'Europa, e quindi il nazionalismo si manifestò anche in Italia, ma il nazionalismo fu un moto europeo, nel senso cioè che si manifestò nei principali paesi dell'Occidente europeo. Certamente, dico in questa parte che non leggerò, ci furono fattori, influssi stranieri, ma non bisogna fare una netta separazione tra gli influssi stranieri e le spinte interne, perché questi a un certo punto si sintetizzarono, vero? I fattori interni si sintetizzarono con gli influssi stranieri. Non bisogna fare una elencazione notarile, vero, di questi influssi. C'è un libro pregevole che è stato ripubblicato, riveduto qualche mese fa, il libro di Franco Gaeta sul nazionalismo, credo che sia una delle migliori pubblicazioni italiane, vero, sul nazionalismo. Gaeta a un certo punto dice, ma dice, questa storia delle fonti straniere del nostro nazionalismo non è stata ancora molto chiarita, non abbiamo fatto ancora una specificazione dei vari elementi importati dai nazionalismi stranieri in Italia. Si dice che il nazionalismo italiano è stato un nazionalismo imitativo di quello francese, ma questa dimostrazione non è stata data ancora. E io gli do ragione, però dico che il problema è mal posto. Non si può fare una elencazione, vero? Quello che si può fare, viceversa, è una identificazione dei fattori interni, diciamo delle spinte interne, e poi una ricerca dell'innesto su questi fattori interni di influssi stranieri, ed è quello che io faccio nella mia relazione, che vi leggerò nella parte in cui questo cerco di fare. C'è una cosa che io non ho fatta, ma è giusto che io ve la dica. Ci sono tre punti che avrei dovuto trattare e che non ho trattato. È il rapporto tra il nazionalismo italiano, naturalmente, e il cattolicesimo in particolare, Certamente anche questo rapporto merita di essere approfondito. Mi sembra di poter dire che anche su questo rapporto, vero, ci sono molti luoghi comuni che bisogna dissipare, vero? Il nazionalismo, non solo in Italia, ebbe questo problema dei rapporti con la religione che tentò di strumentalizzare, però non fu tutto tentativo di strumentalizzazione, però è un aspetto del problema che io, devo dire, realmente non ho trattato perché merita un'ampia indagine e un maggiore approfondimento. Un altro aspetto che io non ho trattato è quello del rapporto tra marxismo e nazionalismo. Vero è che io, come se vedrete tra poco, mi soffermo molto sull'influsso sorrelliano, cioè sul socialismo, del socialismo scismatico di Sorel, però ci sono anche influssi proprio del marxismo sul nazionalismo. Io sono convinto che abbia ragione Croce quando dice che il nostro nazionalismo fu più antiliberale che antisocialista, che prese qualche cosa dal socialismo, la lotta naturalmente trasferendola nel campo delle nazioni, dal campo delle classi, ma soprattutto una certa abitudine mentale. Il marxismo aveva identificato come forze vive le classi, quindi aveva già rotto l'unità. Ora il nazionalismo, ovvero, identifica come forze vive le nazioni, ma c'è un passaggio logico. E comunque questa abitudine a identificare le forze vive nella nazione presuppone quella rottura che ha già provocato il marxismo. Dice Croce: piacevano molto ai nazionalisti l'idea della lotta e l'idea della dittatura. Ora, questo problema del marxismo, del rapporto, degli influssi proprio culturali del marxismo sul nazionalismo, secondo me è un problema da approfondire, che io non ho approfondito. Infine c'è il pensiero economico del marxismo, del nazionalismo. Credo che ci sia una relazione. Ed è molto interessante. Io ho un po' sfiorato nella mia ricerca il problema. Si parla molto dell'influsso della scuola protezionistica tedesca sul nazionalismo italiano, ma in realtà, ecco, mi sembra di poter dire che List non è stato un maestro dei nostri nazionalisti. La fonte più alta e più nobile della teorizzazione del protezionismo è quella tedesca di Federico List, l'economia nazionale. Mi pare di poter dire che i nazionalisti italiani lo hanno appreso di seconda mano. Vero è che Filippo Carli, che fu un po' il teorico dell'economia, lo cita nei suoi libri, ma io credo di poter dire che neppure Filippo Carli approfondì il vero significato del protezionismo industriale di Federico List, che era un protezionismo inteso a raggiungere non fini brutalmente economici, era un protezionismo inteso a raggiungere, come disse lui, fini di cultura economica, lo sviluppo delle forze produttive, comprendendo quindi non solo gli strumenti puramente economici, ma anche le idee, anche le istituzioni. Ora, non mi sembra che l'influsso di Federico List sia stato molto accolto, recepito e sviluppato dal nostro nazionalismo. Comunque anche questa è una ricerca che io non ho fatta, è una ricerca che richiede, appunto, di essere assai più approfondita. Ora, con questo preambolo, io passo a leggervi le parti della relazione che mi sembrano le più significative e quelle che comunque ritengo siano suscettibili di una feconda discussione in questa sede. Naturalmente nelle parti che leggerò ci sono lacune che si paleseranno, ma non credo che tolgono continuità vero, sostanziale al filo del mio discorso. Giustamente è stato scritto che Roma Capitale fu per il nuovo Stato una forza capace sia di bene che di male, cioè una forza idonea a ispirare più alte idealità morali e politiche in armonia con quelle che lo avevano plasmato e a infondergli una più vigorosa energia di volontà di pensiero, ma idonea altresì a ispirare falsi orgogli e a suggerire sogni e aspirazioni di anacronistica grandezza. Qualcuno degli antiromani, di coloro che non volevano che l'Italia nuova ponesse la sua capitale in Roma, proprio questo aveva paventato, che cioè Roma diventasse il belletto di un'Italia decrepita che aveva fatto il suo tempo. Invero sembra proprio di dover dire che in parte la forza di Roma capitale fu anche una forza malefica. Si tentò di modernizzare e universalizzare Roma come capitale dello Stato moderno più esemplare, come Stato veramente libero, perché garante nel suo seno della stessa libertà della Chiesa, restituita alla purezza del suo magistero, o come faro del progresso scientifico, il Dinosella, dove per millenni aveva padroneggiato il dogma, ma provarono non irrilevante ascolto quelle immagini di Roma, potente e conquistatrice, con la forza materiale, anche delle armi, più corrispondente con il modo di sentire già prevalente nell'Europa del tempo. Accanto ad una tenuta che fu ferma e sostanzialmente rettilinea, specialmente in sede di governo, non si evitarono contraddizioni e lacerazioni, arresti e deviazioni derivanti in parte dalla stessa fermezza e continuità dell'azione governativa che, dovendo procedere fra opposti pericoli, fu cauto e prudente e perciò parve debole e vile in un momento proclive agli atti di forza e suscitò lo sdegno degli impazienti, trapassando imprese di posizione e professioni di fede incompatibili con l'anima schiettamente liberale del Risorgimento. Bisogna riconoscere che non solo il mito di Roma gettò le sue radici in quegli ultimi decenni dell'Ottocento, ma anche altri miti e concetti furono allora seminati nel pensiero italiano, miti e concetti da cui germinò il nazionalismo nel primo decennio del presente secolo. Ha scritto Federico Chabot che l'atteggiamento di Crispi in politica estera aveva già un'impronta nazionalistica, nazionalismo di stato d'animo, spiega lo storico, che era il necessario presupposto del più tardo nazionalismo dottrinario. Invero, nel trentennio finale del secolo XIX furono posti altri presupposti del più tardo nazionalismo dottrinario, e non solo in forma di nazionalismo di stato d'animo, ma anche in forma di pensieri, di idee, teorico o teorizzanti. Mette conto ricordare qui almeno quei miti e concetti che più stimolarono la nascita del nazionalismo dottrinario nel veniente secolo, cercando di individuare di essi le vere fonti nelle correnti politico-culturali dell'Italia unita, e precisamente il mito della guerra moralizzatrice e rivitalizzante, la riduzione naturalistica dell'idea di nazione, l'applicazione del darwinismo ai rapporti tra i popoli, i conati di pensiero imperialistico e l'antisocialismo. Il mito concetto della guerra etica o moralizzatrice ha avuto nell'Ottocento non poche ma molte fonti di varia dignità. Non occorre scomodare né Hegel né Renan per spiegare il diffondersi del mito della guerra in quel periodo storico della vita europea e italiana, anche perché specialmente nel pensiero di Hegel la funzione etica della guerra si innalza ad un'altezza biblica, per cui essa non è tanto esperibile come rimedio premeditato e programmato, quanto inevitabile come scelta e imposizione autorisanatrice dello spirito del mondo nel processo della sua marcia. per spiegare il pensiero bellicista che si manifestò in Italia in quel periodo storico, è sufficiente ricorrere a fonti autoctone. Già Pisacane aveva identificato nel problema militare il punto di partenza per la vita di un'Italia capace di vera rivoluzione. È noto che egli non aveva esitato a scrivere che per attuare la nostra vera fratellanza con la Francia, di cui detestava la protezione, sarebbe stato necessario combatterla e vincerla, oppure meritare la palma in una nobile gara di gloriose gesta sul medesimo campo di battaglia contro un nemico comune in parità di circostanze e di forze. Pesava sugli italiani l'accusa di difetto di spirito militare come frutto della loro storia, accusa resa più dolorosa dalle sconfitte militari di Custozza e di Lissa. In un periodo ferrigno e guerresco come quello apertosi in Europa con la capitolazione di Parigi nel gennaio del 1971, si diffuse facilmente l'idea che l'Italia, come disse lo storico tedesco Reich, per diventare davvero una grande potenza aveva bisogno di battersi. Persino il moderato e insospettabile Nigra avvertì che l'Italia era ancora in Europa sotto l'impressione di Custozza e di Lissa, aggiungendo che quella situazione poteva durare purtroppo finché l'Italia avesse avuto la fortuna di cancellare su altri campi di battaglia gli errori della Marmora e le colpe di Persano. Da alcuni, con l'animo di chi cede ad una necessità spiacevole ma inevitabile, da altri con enfasi e compiacimento, si vagheggiava la prova bellica come una specie di sacro esperimento per il compimento dell'unità morale degli italiani. Rocco De Zerbi, assai prima del dannunzianesimo, palesemente dannunzieggiava quando affermava a Milano nel 1882 che occorreva il lavacro degli eroi, il tiepido, fumante bagno di sangue come unico mezzo per rendere stabile e sicura la nuova vita dell'Italia unita. Anche Pasquale Turiello scriveva nello stesso anno che una convivenza ordinata e sicura si sarebbe potuta conseguire solo quel giorno, che una grande e nuova riscossa virile, una seconda prova d'armi e di sangue, avesse ridato all'Italia il vigore che allora le mancava, di risentirsi tutta e di provvedere con ordini e con riforme vitali al suo più degno avvenire. Dal riconoscimento e dalla invocazione della guerra come mezzo necessario per dare agli italiani l'occasione ritenuta indispensabile per riconquistare la fiducia in se stessi e per unificarli moralmente, per rialzare il prestigio internazionale dell'Italia, non tardò ad elevarsi l'inno di glorificazione ed esaltazione della guerra come mezzo di elevazione e di sublimazione di tutti i popoli ansiosi e capaci di concorrere alla vita attiva del mondo. Oriano, ancora non giunto alla piena maturità, definì la guerra come la forma inevitabile della lotta per la vita ed esaltò il sangue come la migliore delle rugiade per le grandi idee. Fra le fonti del bellicismo fluì anche in Italia quella estensione del darwinismo alla lotta politica e tra gli stati. Come nella natura la lotta seleziona i più forti, così la guerra fugge e rivela i più potenti. È stato notato che le idee di Darwin si diffusero in Europa nell'età del positivismo con una intensità non paragonabile a quella con cui si erano diffuse le idee di Hegel. Nel momento in cui i fenomeni politici cominciarono a spiegarsi come fenomeni soggetti a leggi naturali, parve logico estendere anche alla lotta tra i popoli il concetto della lotta per l'esistenza, in cui trionfano i più forti e i più vitali. L'eco del darwinismo si percepisce, come abbiamo ora sentito, anche in Oriani, il quale peraltro, come è noto, si era abbeverato anche a fonti hegeliane. Di darwinismo si imbeve anche Turiello, che vide le grandi fratellanze tramontare tra gli ideali del secolo, che già si rendeva ferreo, come gli scrisse, per le gare economiche, per i sospetti sempre più fieri, per lo studio delle armi, risorgendo ed allargandosi da poche città in vaste nazioni quella virile necessità che faceva tutti i soldati, i greci e i romani. Ogni nazione, egli aggiunse, sogguarda alla possibile nemica, ogni grande stato attende in fretta attorno al Mediterraneo a togliersi quando prima può di ciò che rimane senza forti signori, ognuno degli altri. Anche la Francia seppe quello che voleva e lo ottenne a Tunisi o in Egitto. Di fronte a questo spettacolo, Turiello si duole che l'Italia sa di volere ciò che meno importa, o di non voler nulla, e si sforza fra il sorriso degli altri a vestir di pudore la sua irresolutezza colpevole verso i posteri, e si afferma custode del dritto e della pace, giudice imparziale delle altre nazioni, senza aver provveduto né alla sua autorità e né al vigore delle sanzioni. Corollario dell'esaltazione della guerra come una specie di ricorrente terapia d'urto per rinvigorire i popoli e impedirne il ristagno e il corrompimento, era la predicazione dell'azione per l'azione come generatrice di energia e di entusiasmo, quali che ne fossero i fini. I predicatori dell'azione come sorgente di energia rimproverano agli amministratori della destra la preferenza accordata alle minuzie delle analisi anziché alle complesse intuizioni della sintesi, con l'effetto di pietrificare la nazione nel gelo della loro anima. Si è notato che questo stato d'animo, che si esprimeva soprattutto nel giornale La Riforma, interprete del pensiero di Crispi e dei suoi amici, era lo stato d'animo inquieto e inquietante di una parte dell'opinione pubblica italiana, allora numericamente assai modesta, ma non trascurabile per importanza di uomini, e che doveva costituire il primo nucleo dei più grossi futuri plotoni di volontari dell'entusiasmo e dell'azione. Nello stesso trentennio si determina la dissociazione tra nazione e libertà, principalmente nell'ambiente crispino, ma anche in altri ambienti. È certamente schematica la contrapposizione tra le dottrine italiane della nazionalità, che l'avrebbero spiegata e intesa come stato di coscienza e formazione storica, e le dottrine germaniche, che ne avrebbero ricercato il fondamento nella natura, nella geografia, nella lingua, nella storia, divenute esse stesse dato oggettivo preesistente alla volontà e alla coscienza degli uomini. Ma è vero che nell'età eroica del Risorgimento nazionale vi fu uno stretto legame tra nazione e libertà, tra nazione e umanità. Sia i moderati cavurriani che gli uomini del Partito d'Azione, con poche eccezioni, concepirono e vollero la nazione come individuazione storico-culturale e politica, che doveva comporsi nell'umanità distinta e articolata nelle varie nazioni cooperanti e non lottanti per il predominio. Questo concetto comincia ad oscurarsi nel trentennio, eppur se non si rompe del tutto il legame tra nazione e libertà, l'accento viene posto sulla prima, mentre il richiamo della seconda diventa sempre più rituale. Non sembra che si possa dire che ciò avviene per suggestione delle dottrine germaniche, tendenti a riporre in fattori prevalentemente naturalistici la genesi della nazionalità. Il naturalismo applicato alla nazionalità si spiega come effetto del clima intellettuale che va via via prevalendo in Europa ed anche in Italia, che è parte dell'Europa. Il fenomeno si manifesta più chiaramente in quello che possiamo chiamare il circolo crispino. Crispi, sin dal 1865, aveva affermato che la nazione come l'uomo esiste e non è necessario che un popolo o un Parlamento lo proclami perché esista. Parlando in veste di Presidente del Consiglio nell'ottobre del 1889, dirà: la nazione esiste per virtù propria, entro la cerchia dei suoi confini, nazio quia nata. Dirà ancora più chiaramente nel novembre del 1891: l'esistenza e la indipendenza delle nazioni non possono essere soggette all'arbitrio dei plebisciti. Le nazioni vivono di diritto naturale, eterno, immutabile, né per forza d'armi né per volontà di plebi questo diritto può ricevere alcuna mutazione. Anche i concetti brillano più in alcuni aspetti che in altri, a seconda del clima intellettuale e morale, del tempo e dell'ambiente in cui si definiscono e si manifestano, e del significato del discorso generale nel quale si inseriscono. Le idee di Crispi sulla nazione furono riaffermate dopo e dai suoi amici sulla riforma era stata discussa l'annessione dell'Alsazia alla Germania, in occasione della quale Reist aveva dichiarato: noi tedeschi, che conosciamo la Germania e la Francia, sappiamo meglio di quei miseri sventurati ciò che è buono per gli abitanti d'Alsazia, i quali sotto l'influenza pervertitrice del loro legame con i francesi sono rimasti estranei alle simpatie della nuova Germania. Contro il loro volere noi li faremo risenzare. Anche in quella discussione gli amici di Crispi ripetutamente sostennero l'unità e l'indivisibilità della sovranità nazionale come diritto anteriore e superiore al suffragio stesso delle popolazioni. Perciò non si può negare ingresso all'affermazione che quello che realmente avveniva nella nuova temperie spirituale e politica era il trasferirsi dell'elemento decisivo della nazionalità dal campo morale e della coscienza degli uomini ad una presunta oggettività esteriore, da una nazionalità autocosciente che era stato il motivo ispiratore del risorgimento ad una nazionalità naturale e incosciente. Neppure si può contestare l'affermazione che con il suddetto passaggio, sciolto il nesso tra nazione e libera volontà degli uomini, tra nazione e volontà nazionale, e naturalizzata la nazione, da una parte si apriva il varco senza vedersene e senza volerlo alla ricerca di un fondamento etnico della nazione, e dall'altra si spezzava il trinomio nazione, libertà, Europa. Spezzato sul piano culturale, questo trinomio non sarebbe stato molto facile riacciuffare il figlio ribelle ed ex legge del nazionalismo. Anche il fantasma dell'imperialismo comincia ad aggirarsi nel trentennio, nel pensiero di scrittori che si sforzano di giustificarlo con riferimento ad esigenze dell'Italia presente. Ormai Oriani scrive che il segreto del fenomeno storico della ricostituzione dell'Italia in nazione sta nella necessità che la storia mondiale può avere della sua opera e nella facoltà del nostro popolo a prestarla. Egli incita a puntare sull'Africa, sull'Asia, chiamando le razze inferiori alla civiltà, sviluppando pensieri già espressi prima della fine del secolo. Scriveva nel 1908 che bisogna espandersi, conquistare spiritualmente, materialmente, con l'emigrazione, coi trattati, coi commerci, con l'industria, con la scienza, con la religione, con la guerra. Ritirarsi dalla gara è impossibile. Bisogna dunque trionfarvi. L'avvenire sarà di coloro che non lo hanno temuto. La fortuna e la storia sono donne e amano soltanto i gagliardi capaci di violentarle, che accettano i rischi dell'avventura per arrivare alla dominazione dell'amore. L'imperialismo non è sogno che nei deboli e diventa vizio soltanto negli incapaci al comando. I nostri ultimi eroi erano tutti grandi avventurieri, i nostri recenti viaggiatori vedevano tutto nell'avventura un lineamento d'impero. Turiello a sua volta, sin dal 1882, si era doluto del fatto che lo Stato italiano non avesse preparato fuori più nuove Italie ai diseredati, dando organismi e protezioni ai numerosi emigrati, aprendo con le armi nuove dimore in terre nostre, avviando con essi il curato e il maestro, ma il maestro già dianzi avrebbe dovuto essere reso qui l'uomo venerato ed amato delle famiglie per durare tale fuori, e il curato di campagna avrebbe dovuto qui sentirsi protetto prima per un pezzo dallo Stato a casa sua. Lo scrittore anticipava un tipico postulato nazionalistico dell'alleanza dello Stato con la Chiesa per la grandezza dell'Italia, fuori dei confini. In questi lampeggianti incitamenti imperialistici è significativo il sostegno ad essi dato con il riferimento alla innegabile realtà del fenomeno migratorio italiano, che già prorompeva nell'imminente nazionalismo dottrinario. L'espansione coloniale imperialistica sarà propugnata come alternativa all'emorragia depauperizzante dell'immigrazione. Nel trentennio, infine, si leva, per così dire, sempre più sull'orizzonte della politica nazionale il controverso rapporto tra lo Stato e le masse dei cittadini lavoratori, nei due aspetti connessi del loro largo assenteismo, dalla partecipazione attiva ai modi di sentire e ai meccanismi funzionali della nuova compagine politica e della loro incipiente avversione aggressivamente organizzata contro la stessa realtà di questa nuova compagine. Si rileva e si lamenta che lo Stato ha troppo esili e ristrette basi nella società civile, ma insieme si teme che allargandole la società civile ostile o indifferente finisca con il sopraffarlo, mettendo in pericolo i conquistati beni della libertà e dell'unità nazionale e perciò riesumando il detestato passato. Questi timori e i connessi indugi non solo non pongono freni, ma piuttosto forniscono stimoli al raggrupparsi nel paese di cittadini che si associano per la difesa dei loro interessi e diritti o per diffondere i loro ideali in forme che non canalizzano questa difesa nell'alveo delle istituzioni. I moti della Comune parigina produssero i loro effetti anche in Italia. Si cominciò a temere che l'incipiente internazionalismo si proponesse come bersaglio la risorta nazione. È stato scritto che l'antisocialismo sgorgò dalle premesse di quel pensiero liberale dell'Ottocento che si era ingarnato nelle istituzioni. Invero, concluso il trentennio, proprio quel pensiero avrebbe intrapreso lo sforzo di aprire un varco alle aspirazioni delle masse lavoratrici rappresentate dal Partito Socialista affinché entrassero anch'esse nell'ingrandita e allargata casa dello Stato. Ma non si può negare che il pensiero liberale come pensiero ispiratore e animatore dello Stato, nel suo primo impatto con i problemi nascenti dalle masse lavoratrici, recandi nel grembo del loro assenteismo o della loro ostilità l'anelito ad una vita più degna, davvero non dimostrasse più, come è stato scritto, quella freschezza, quella forza e capacità di vedere alto e lontano che aveva dimostrato nel più recente passato. Certamente anche questo difetto di freschezza e prontezza dinanzi ai nuovi problemi contribuì al sorgere e al diffondersi dell'antisocialismo, che adoperò armi intese a colpire sia il liberalismo che la democrazia come genitori del mostro, cioè del socialismo, individuato sempre più come antinazionale in quanto internazionalista. Si affermò la tendenza a porre patria e libertà su un piano antitetico a quello delle aspirazioni sociali. L'antisocialismo, come sorse e crebbe in Italia, ebbe come bersaglio il socialismo, ma assai più intese colpire la democrazia, il numero, la quantità, la massa. Colpendo la democrazia si volle colpire e si colpì anche il liberalismo, come fautore e artefice degli strumenti come il Parlamento che avevano reso possibile l'avvento democratico. Nel trentennio si sviluppò un'agre polemica antiparlamentare che fu un momento ed un aspetto dell'antisocialismo. Anche questi materiali confezionati dall'antisocialismo serviranno nella fabbrica del nazionalismo. Il quesito al quale più necessita fornire una risposta chiara per l'esatta individuazione delle vere fonti culturali dei suoi esposti miti e concetti che il secolo XIX trasmetteva al secolo XX e da cui il nazionalismo dottrinario italiano riceverà stimoli e trarrà significativi elementi per l'elaborazione della sua dottrina, è quello concernente il collegamento degli stessi miti e concetti con le componenti ideali che, contrapponendosi e intrecciandosi, cooperarono alla formazione del nuovo Stato e indi al suo governo. C'è una interpretazione che si ripete, in vero più per forza di inerzia che per il ripensamento e l'approfondimento delle idee, secondo la quale la principale fonte alimentatrice dei pensieri che si connetteranno in sintesi nella dottrina nazionalistica è da ravvisare nella vecchia storia. Secondo alcuni ci sarebbe stata addirittura continuità di sviluppo fra destra storica e nazionalismo. I più benevoli verso la destra storica che pur condividono la tesi della filiazione del nazionalismo da quel movimento culturale e politico, interpretano il nazionalismo come un corrompimento e decadimento della tradizione giobertiana spaventiana del nostro risorgimento. Pur se non è poco, ma molto dubbia, l'unità di una tradizione che includa Gioberti e Spaventa, il riferimento a questa tradizione non è leggibile che come riferimento alla destra storica. La destra storica si sarebbe corrotta e sarebbe decaduta. Noi riteniamo che questa interpretazione non abbia fondamento. In primo luogo bisogna chiarire che nel coro delle voci che espressero quei concetti e miti si udirono voci non classificabili, come ad esempio quella di Carducci, al quale accadde di esprimere in immagini suggestive anche sentimenti eccitativi di alcuni degli anzidetti concetti o miti. A proposito di poeti, non voglio mancare di avvertire, in parentesi, che secondo me è stata esagerata la parte svolta da D'Annunzio. È stato scritto che la figura di D'Annunzio fu torreggiante e demoniaca e che il dannunzianesimo costituì una delle più forti correnti da cui trasse origine il nazionalismo. Certamente D'Annunzio fu una efficacissima squilla del nazionalismo e foggiò immagini e versi che eccitarono e prepararono gli animi ad accoglierne le idee e gli incitamenti. Ma egli appartiene alla storia dell'azione e della predicazione del nazionalismo e della sua propaganda. Non entra in quella della formazione della sua dottrina. Il citarlo così vistosamente fra gli artefici del nazionalismo appartiene a quella storiografia alta e pura che quasi ha timore di sporcarsi le mani trattando il nazionalismo troppo analiticamente e perciò cede alla tentazione di limitarsi a descriverlo, così come si presenta a prima vista nell'aspetto di una specie di bazar, senza curvarsi a distinguere tra le varie merci che lo ingombrano. In secondo luogo si deve rilevare che è vero che nel coro ci furono anche voci di uomini appartenenti alla destra. Nella parte che non ho letto ho citato Alberto Blanco, in apertura di quel coro, ma ce ne furono anche altri, se non che il problema da risolvere non si risolve anagraficamente, cioè con l'anagrafe dei personaggi che espressero quelle voci. Anche l'anagrafe può giovare, ma solo come mezzo. Il problema si risolve identificando la qualità del pensiero che elaborò quei concetti e miti o ad essi cedè, il carattere delle abitudini mentali e intellettuali di coloro che li elaborarono, la natura degli ideali ad essi sottesi. Giustamente è stato scritto che bisogna risalire alle due differenti concezioni del risorgimento nazionale. I concetti e i miti da me esposti come impugnabili del nostro nazionalismo non furono incontrastati. Nel trentennio c'è il filo di una polemica che non si interrompe e nella quale sono schierati da una parte quelli che sostengono gli anzidetti concetti e miti, e dall'altra coloro che li avversano e combattono. Bisogna ricercare e mettere in luce quel filo, che come ho detto non si interrompe mai, ma che non in ogni momento è visibile in superficie, per penetrare sia nella qualità dei pensieri da cui germinarono quei concetti e miti, e sia nella qualità dei pensieri di coloro che tenacemente li contrastarono. Bisogna dare atto al compianto storico Federico Chabot di aver effettuato esemplarmente questo scavo profondo e di avere praticato non poche aperture che permettono di guardare oggi nelle profondità di quella polemica per sorprendervi i moti originari dei sentimenti, degli ideali, dei pensieri che la determinarono. Guardando nel profondo si scopre che la polemica tra moderati e nazionalpopolari che avrebbero voluto un risorgimento rivoluzionario per iniziativa popolare si aggiorna e riecheggia nella nuova polemica. Sono mutate tante cose da allora. uomini rappresentativi del Partito d'Azione hanno accettato la soluzione dei moderati. Alcuni di essi hanno accettato non solo la forma, ma anche lo spirito. In altri è coperto, ma non spento, il rammarico che lo Stato si sia costruito non per virtù di una esclusiva iniziativa del popolo, e a questo rammarico si innesta l'aspirazione a cercare vie nuove, quantomeno per recuperarlo, integrandolo nello Stato stesso, forse essi, nel volto delle masse che si affacciano ostili, sono propensi a vedere non tanto il popolo quanto l'antipopolo, cioè coloro che vogliono negare la nazione. Il loro ideale originario era infatti la nazione fatta dal popolo e con la quale il popolo si immedesima. Al Risorgimento si è contrapposto, e ancora oggi si contrappone storicamente, l'antirisorgimento, cioè l'intreccio dei pensieri, degli ideali, dei sentimenti di coloro che non si sono riconosciuti nell'opera del Risorgimento, come si realizzò. C'è stato anche un antirisorgimento come stato d'animo di coloro che hanno considerato il Risorgimento effettivo una strozzatura del Risorgimento, che essi avrebbero voluto che si fosse realizzato. Oriani scrisse che la rivoluzione italiana, anziché opera di popolo, aveva trionfato per un sopruso eroico della sua minoranza, aiutata da incidenze e coincidenze straniere. Oriani interpretò il sentimento di coloro che non tanto contrapposero l'antirisorgimento al risorgimento, quando sentirono incompiuto il risorgimento effettivo e perciò aspirarono ad un super risorgimento, che in vero non l'avrebbe compiuto, ma solo ribaltato. In quanto appariva e in effetti era costruibile come con forze ideali, quelle suggerite più o meno apertamente dai suoi stessi fautori, opposte a quelle che avevano costruito il risorgimento reale. Il super risorgimento, ecco il punto, sonnecchiò in non pochi uomini del Partito d'Azione, che pur si erano ragliati alla soluzione dei moderati, e a volta si rinestò per il pungolo di difficoltà che apparivano ad essi insolubili con il metodo e gli strumenti della libertà. Antonio Gramsci manifestò apprezzamento per Oriani, considerandolo il rappresentante più onesto ed appassionato per la grandezza nazionale popolare italiana tra gli intellettuali della vecchia generazione. Io ritengo che il leader e studioso comunista abbia individuato un carattere saliente, non solo di Oriani, ma di tutto l'orianesimo. Quasi tutti i concetti e i miti che obiettivamente sono identificati come impugnabili del nazionalismo e che si manifestarono in Italia nell'ultimo trentennio dello scorso secolo, quasi sempre fronteggiati e avversati con maggiore o minore energia dai cosiddetti moderati, cioè dal superstite nucleo della nostra storia, furono percorsi da una vena ora coperta ed ora scoperta, in cui scorreva sangue che proveniva dalla sorgente dei sentimenti e pensieri nazional-popolari, rimasta compressa dal prevalere della soluzione moderata e perciò esposta a ristagnare e a corrompersi. Nel nazionalismo che si articolerà in dottrina, opererà fra le altre anche una spinta populistica, come quella che si rivelerà nell'idea corradiniana della nazione proletaria, integratrice nella sua unità del popolo, che in vero fu più ricca di forza emotiva che di coerenza logica. Anche attraverso questa spia è possibile guardare nelle profondità dei veri ingunabili nazionali del nazionalismo italiano. Tra quelli che collegano il nazionalismo alla destra storica c'è chi congede che questa fu europeistica, mentre il primo non lo fu. In vero, il nazionalismo italiano fu intrinsecamente ed essenzialmente anti-europeo e non superficialmente e marginalmente, per la natura stessa dei suoi momenti e fini. Durante il fascismo si pubblicò una rivista con il titolo Anti-Europa. Quel titolo era significativo di una tendenza era insita nel nostro nazionalismo. In quanto all'europeismo della destra storica, esso non era un elemento aggiuntivo agli altri elementi, ma un momento necessario della sintesi del suo pensiero. Tolto quel momento, la stessa sintesi cadeva. Il trinomio nazione, libertà ed Europa era indissolubile. La destra, sia al governo che all'opposizione, mantenne ferma la sua fedeltà a quella sintesi e con essa si identificò. Quando le sue acque si mescolarono con le altre, fu sempre distinguibile una corrente in cui sopravvisse il puro spirito della destra, che circolò nel suddetto trinomio e non sarebbe potuta essere presente in uno dei tre termini senza essere presente negli altri. Ruggero Bonghi, parlando alla Camera il 31 maggio del 71 sulla legge sulle guarentigie, disse esattamente: noi siamo nati e vissuti asserendo precisamente i diritti nostri e rispettando scrupolosamente quelli di tutte le altre nazioni. Siamo venuti al mondo con una promessa di pace e di giustizia. Noi abbiamo gettato un lampo di luce sul sorgere, nel sorgere non l'abbiamo accompagnato col triste rombo dei cannoni, non l'abbiamo fatto precedere dal lampo dei manipoli, dall'onda dei cavalli e dal mortale luccichio delle spade, e non abbiamo predicata la dottrina del ferro e del fuoco. Noi abbiamo chiesto all'Europa che ci desse il posto che ci spettava e l'abbiamo preso senza ledere i diritti altrui. Abbiamo detto di volerlo tenere senza neanche ledere le coscienze, gli interessi morali di nessuna nazione d'Europa. Bonghi, eccellente divulgatore, seppe anche in quell'occasione divulgare in una felice sintesi il vero spirito della destra, spirito che caratterizzò e distinse la sua fisionomia politica e storica. Il fatto che alcuni abbiano abbandonato o tradito questo spirito e che in altri si sia affievolito, continuando tuttavia a richiamarsi alla destra, non può autorizzare e legittimare nessuno a deformare la vera fisionomia di quel movimento culturale e politico. Alla destra storica che si era contrapposta, ecco, adesso passo, cerco di abbreviare. Eccomi. A questo punto mi è imposto di mettere in evidenza una ragione non superficiale che induce a ricercare nella destra storica alcune delle radici del nazionalismo italiano come pensiero e azione politica, volti a conservare, valorizzare la nazione considerate quale organismo autonomo e preesistente e sopravvivente agli stessi individui che via via lo compongono. Non è esatto dire, come è stato detto, che nella destra come in ogni altra formazione politica che le si congiunga nell'ispirazione profonda, convissero due anime, una più tendente a conservare l'esistente e l'altra più tendente a riformarlo. Ma si deve piuttosto riconoscere che la sua unica anima ebbe in sé due impulsi complementari e cooperanti nella loro diversità: quello di conservare l'opera compiuta come opera viva e quella di rinnovarla e riformarla mercé la risoluzione dei problemi posti dalla sua stessa vita. La conservazione che la destra predilesse fu quella giobertianamente definita creazione continua, simile alla conservazione della natura, che si può conservare e si conserva continuamente rinnovellandosi. Ma capitò e capita che alcuni abbiano scisso e scindano quello che è dialetticamente unito, indissolubile, dedicandosi al mero intento della conservazione o al mero intento della innovazione. Il caso di Antonio Salani, ecco, questo è un uomo che viene molto dopo, però io lo cito come un caso clinico che ci permette di vedere lo schema, ovvero del tralignamento. Antonio Salelli, almeno nell'epilogo della sua vita politica, fu emblematico di questa scissione. Egli disse nel suo discorso del 19 aprile 1924, pronunciato a Milano, per giustificare la sua adesione alla lista maggioritaria presentata al corpo elettorale dal Partito Fascista, che parlando a Bari nell'aprile del 1921 agli elettori pugliesi riconobbe le alte benefiche finalità politiche del fascismo, che si surrogava al governo, che non voleva o non poteva compiere l'ufficio suo. In sostanza egli giustificava e lodava le azioni squadristiche come azioni di polizia compiute dal fascismo in sostituzione dello Stato. Aggiunse che dello Stato elemento essenziale è l'autorità, non la libertà, e spiegò che la storia registra governi di alto progresso e civiltà che non furono governi liberi. Egli, dando questa spiegazione, non aveva torto sul piano storiografico, ma in quella sede e in quella occasione parlava non in veste di storico, bensì in veste di uomo politico, ostentando la sua appartenenza al liberalismo, sia pure di destra. Salandra concluse rivendicando il diritto dei liberali di destra, di cui si disse interprete e rappresentante, ad affidare a Mussolini la gloriosa tradizione del Risorgimento, scevra di ogni contaminazione. Purtroppo, proprio nel pensiero da lui esposto, quella gloriosa tradizione appariva tutt'altro che scevra di contaminazione. Infatti, in quel discorso era rimasto il corpo della nazione, dal quale era ormai evaporato lo spirito di libertà che gli aveva insufflato la vita, dato il nesso di consustanzialità tra nazione e libertà, come fu sentito e pensato dai padri artefici del nostro Risorgimento, è fatale che, scindendosi il nesso e assumendo la nazione come unicum, al di fuori di esso si creino condizioni propizie e stimolanti al sorgere del nazionalismo. Io ho voluto mostrare l'iter di questo tralignamento nel caso illustre di Salandra, ma anche altri uomini della destra storica, tra la fine dello scorso secolo e l'inizio del presente, lo soffrirono e subirono. Si trattò di cadute e di mangamenti, ma di essi non si può fare un ponte tra la destra storica e il nazionalismo, e neppure il sintomo di una inclinazione della destra storica verso il nazionalismo. Abbiamo ora sentito che Salandra, nel discorso alla Scala di Milano nel marzo del 1924, si qualificò liberale di destra, quando in una formazione politica come quella della destra storica, o che si ricolleghi ad essa, sorge la distinzione tra componenti di destra e componenti di sinistra. Questo è già il segno che tale formazione ha perduto o sta perdendo la sua anima in coloro che si raggruppano secondo questa distinzione. Devo soggiungere, per concludere su questo punto, che una spinta alla identificazione della destra storica come fonte del nazionalismo è provenuta dalla interpretazione che di essa diede Giovanni Gentile, il quale in qualche momento parve proporsi come il più alto e veritiero erede teorico di quel moto culturale e politico. Il filosofo, in una lettera del 31 maggio del 23 al Presidente del Consiglio, Benito Mussolini, dichiarò che il liberalismo fu quello degli uomini che credettero sinceramente nella libertà e ne ebbero perciò un concetto austero, e cioè il liberalismo, come egli lo intendeva e come lo avevano inteso gli uomini della gloriosa destra del Risorgimento, il liberalismo della libertà nella legge e perciò nello Stato forte e nello Stato concepito come una realtà etica. Il fascismo, gli scrisse nella stessa lettera, era in parte quello stesso liberalismo. Gentile, nella prefazione al volumetto in cui furono raccolte e pubblicate nel 1924 le lettere di Francesco Fiorentino sullo Stato moderno e le polemiche liberali, ritornò sull'argomento per dimostrare che i tre principi, quelli della libertà nella legge, della libertà nello Stato forte e della libertà nello Stato che si intende e si attui come Stato etico, erano stati tenuti fermi dalla destra storica, la quale aveva ereditato il programma politico di Cavour. Egli citò il discorso pronunciato da Silvio Spaventa alla Camera dei Deputati il 24 giugno del 1876, nel dibattito per le leggi sulle convenzioni ferroviarie, nel quale l'oratore, dichiarato che lo Stato moderno non si restringe a distribuire la giustizia e a difendere la società, ma vuole dirigerla per quelle vie che conducono ai fini più alti dell'umanità, dichiarò di essere adoratore dello Stato. Invero, proprio quel discorso, letto e interpretato nel contesto del pensiero e dell'opera di Spaventa, smentiva il filosofo. Quello stesso discorso Spaventa spiegò che, dicendo, come aveva detto, di essere adoratore dello Stato, aveva voluto dire che in un'epoca in cui tutto si distrugge, poco o niente si edifica, la fede nella patria e la fede nella solidarietà umana, la fede in qualche cosa che non sia solamente il nostro miserabile egoismo, questa fede egli la credeva necessaria e salutare per il paese. Ma soprattutto bisogna tenere presente che nella storia politica della Terza Italia Silvio Spaventa si è distinto ed è ricordevole come il più energico ed autorevole assertore dello Stato, che dovendo nascere necessariamente dai partiti che lo sorreggono e si alternano nel suo governo, deve tuttavia innalzarsi al di sopra di essi per costituirsi ed operare come Stato di diritto e perciò come protettore di tutti e persecutore di nessuno. Certamente Spaventa volle la libertà nella legge e nello Stato, ma intese volle lo Stato come espressione insieme garante della libertà. Nel suo pensiero, in cui si riconobbe tutta la destra, lo Stato nasce e rinasce dei partiti, ma non è lo Stato dei partiti, perché tutela i diritti e gli interessi di tutti. Salto altre pagine, è giusto che io non abusi del vostro tempo. Ecco, l'analisi sulla esistenza o inesistenza dei legami tra destra storica e in generale tradizione di pensiero liberale risalente al risorgimento nazionale da una parte e nazionalismo dall'altra, sarebbe incompiuta se non facessi un rapidissimo cenno della interpretazione marxistica degli stessi legami, giunta al suo acme nel libro, pur ricco di notizie utili e di osservazioni particolarmente stimolanti, di Silvio Lanaro o Lanaro su Nazione e Lavoro. Questa tesi interpretativa non ammette nessuna soluzione di continuità tra tradizione di pensiero liberale e nazionalismo, e considera il passaggio dall'uno all'altro come un passaggio interno all'ideologia della classe dominante. Questa ideologia, secondo la suddetta tesi, cambia segno non appena l'unità di misura della grandezza, le unità di misura diventano lo sviluppo dei fattori produttivi, la coesione sociale, istituzionale, la potenza militare e l'industrialismo come requisito primario dell'espansione. Il filo conduttore di questa interpretazione è molto semplice e passa per quattro momenti. Primo, la industrializzazione capitalistica appare come la principale garanzia di mantenimento dell'unità nazionale e quindi del potere di quelle classi, borghesia e aristocrazia finanziaria, che hanno maggiormente beneficiato del moto risorgimentale. Secondo, questa industrializzazione è tanto più risolutiva quando è più voluta e non attesa o delegata agli agenti spontanei. Terzo, volerla sul serio significa ricorrere con implacabile durezza a misure coercitive sul terreno politico e sociale. Quarto, un'attivizzazione autoritaria delle energie nazionali ha bisogno, ecco il nazionalismo, e gli dice, di una corrispondente ideologia nazionalista, demagogica, intanto in quanto serve e facendo leva su valori condivisi da vasti strati della popolazione, a convalidare una ripartizione di sacrifici richiesti dall'accumulazione. Spiega lo scrittore che per la metamorfosi dell'ideologia madre della borghesia, che da liberale diventa prestissimo nazional corporativa e guarda alla nazione come ad un aggregato macroeconomico, sintesi vivente delle forze produttive sociali, il fattore chiave è rappresentato dall'ipotesi simultanea e correlata della unificazione e dello sviluppo. Trattasi di una tesi contro la quale non si possiedono armi razionali, perché fa intervenire come Deus ex machina una forza che opera irresistibilmente, come fattore inconscio nella volontà degli uomini e dei gruppi, cioè la forza dell'interesse della classe dominante, la quale penetra nelle idee e nelle dottrine per trasformarle e piegarle alle sue esigenze. Come Prius, non c'è un disegno che si premediti e si svolga secondo un piano, ma c'è una forza nella quale è immanente una ratio, che è quella che anela alla perpetuazione del potere della classe dominante e che procede nella sua marcia, come fa l'hegeliano spirito del mondo, lo vogliano o non lo vogliano gli uomini. Giorgio Amendola, nella prefazione alla riedizione del libro di Luigi Salvatorelli su nazionalfascismo, richiamò l'attenzione sulla complessità dell'intreccio di motivazioni classiste e di sedimentazioni ideali, proprio in relazione a quelle interpretazioni che spiegano il fascismo o il nazionalismo null'altro che come l'arma impugnata dalla mano capitalistica, negando all'una o all'altro una vita propria e una propria fisonomia. Voi sapete che Salvatorelli sostenne una certa tesi interpretativa del nazionalismo come moto della piccola borghesia, che Giorgio Amendola condivise questa prefazione. Ecco perché gli dice è molto difficile capire l'intreccio tra motivazioni classiste e sedimentazioni ideali. Nel libro di Lanaro si nega addirittura l'intreccio, perché si spiega il nazionalismo come momento alto della lotta per il dominio della borghesia, che dopo aver impugnato l'arma ideologica liberale sentì il bisogno, qui è tutto il libro, nelle mutate condizioni italiane ed europee, di impugnare l'ideologia nazionalistica. E giungo alla fine. Federico Chabot, giunto al termine della sua attenta e penetrante analisi di tutte le forze benefiche e malefiche e di tutti i germi buoni e cattivi che nell'aprirsi dell'ultimo trentennio dello scorso secolo erano presenti e operanti nella vita italiana, in cui si ripercuotevano i mutamenti intervenuti nella contemporanea vita dell'Europa, scrisse che tale era il confluire dei motivi vecchi e nuovi, ma come essi si sarebbero configurati e precisati, questo era il segreto dell'avvenire. Aggiunse che non era fatalisticamente deciso che proprio la nazionalità divenisse nazionalismo. La via non era tracciata ex eterno, e soprattutto non era una via che potesse svolgersi soltanto tra le Alpi e gli Appennini. Ideali e forza dovevano commisurarsi non solo alla vita italiana, ma anche alla vita europea, come la paura del prossimo diluvio universale veniva nuovamente citata nel 71 da un fatto non italiano, la Comune di Parigi, così lo scetticismo sui grandi principi e il riconoscere come ultima dea la forza erano ripercussioni anche italiane di un generale atteggiamento europeo. La storia europea non tarderà a sciogliere il segreto dell'avvenire e deciderà che la nazionalità sbocchi nel nazionalismo. Perciò tutti i nazionalismi, compreso quello italiano, si sentiranno chiamati alla prova da essi auspicata. A noi ora spetta di ricercare se e come il nostro nazionalismo, di cui abbiamo fino adesso ricercato i materiali preparati dalla nostra stessa storia per la sua nascita, ma che non necessariamente erano destinati ad essere utilizzati per questo evento, sia stato fecondato anche da motivi prestatigli da altri nazionalismi, che avevano avuto un più lungo processo di maturazione ed elaborazione. Ho già detto che si suole ravvisare nel nazionalismo francese la fonte principale del nostro nazionalismo, fino al punto da considerare questo una traduzione di quello. Il termine nazionalismo fu coniato in Francia nel momento più acuto della lotta scoppiata sul caso Dreyfus. Certamente il termine fu importato. Bisogna aggiungere che se i punti obbligati di riferimento, specialmente in quel periodo, furono principalmente per la nostra cultura la Francia e la Germania, l'influsso del pensiero francese si esplicò e continua ad esplicarsi in una cerchia più vasta e perciò stesso più popolare. Perciò non c'è nulla di sorprendente nell'eccitamento al sorgere del nostro nazionalismo provenuto dal più mattiniero ed aggressivo nazionalismo francese, ma porre al centro questo eccitamento e identificarlo come fonte da cui avrebbe tratto non solo stimoli, ma anche elementi essenziali l'elaborazione dottrinale del nostro nazionalismo è fuorviante. In primo luogo si deve rilevare che lo stesso nazionalismo francese non era isolato e che aveva tradotto in lingua francese motivi affiorati in altri nazionalismi, come quello dello spazio vitale e quello romantico tedesco del Volksgeist, chiamandoli con parole diverse. Ad esempio, si è ripetutamente citato il nesso posto tra determinismo e nazionalismo da Barrès come un insegnamento penetrato nel nazionalismo italiano per significare la preesistenza determinante della nazione rispetto agli individui, se non che questo concetto era stato già espresso assai più chiaramente dal ben più alto e nobile Leopoldo Rand, quando scrisse: «Una nazione esiste, sia che coloro dai quali è composta vogliono o non vogliono appartenerle. Essa non si fonda sulla libera autodecisione, ma nella predeterminazione». In secondo luogo, il nazionalismo, qualunque lingua parli, per la sua stessa natura, ha un certo numero di elementi uguali. Il ricercare chi li abbia specificati prima degli altri è superfluo e ozioso. Essi prima o poi ricorrono in ogni nazionalismo. Luigi Salvatorelle mise in evidenza l'atrofia morale del nostro nazionalismo e gli spiegò esattamente che ponendo lo Stato-Nazione come qualche cosa di isolato e unico nel mondo, i nazionalisti finiscono con l'ignorare ogni valore umano, salvo quello politico puro, e perciò falsano e mutilano la stessa realtà dello Stato nazionale e lo stesso concetto del valore politico, svuotando l'uno e l'altra di ogni contenuto effettivo, ponendo la nazione come tutto e non come parte, proponendosi come obiettivo assoluto e assorbente quello di valorizzarla ed espanderla anche con la guerra, si sbocca fatalmente nell'atrofia morale denunciata da Salvatorelli, definibile anche come totalitarismo politico al servizio della nazione, che inghiotte e distrugge in sé ogni altro valore. Ma di questo connotato, che è essenziale al nazionalismo, è infantile ed ozioso ricercare la fonte nel pensiero di Morras. Politique d'abord e politique surtout, Morras non teorizzò la dottrina, che non è teorizzabile, ma coniò la formula. Il nazionalismo francese coniò non poche formule incisive e le esportò anche in Italia, ma non perciò possiamo individuarlo come primaria fonte culturale del nazionalismo italiano. Il pretendere di indicare nel nazionalismo francese la fonte principale del nazionalismo italiano, limitandosi peraltro ad asserirlo solo genericamente, chiudo in un certo senso, rischia di chiudere la ricerca. Noi ad esempio riteniamo, io ritengo, che davvero provenne dalla cultura francese una forte spinta all'elaborazione di essenziali motivi della dottrina nazionalistica italiana. Ma dietro questa spinta non ci fu tanto il nazionalismo di Barrès e Morras, quando il socialismo scismatico e guerriero di Giorgio Sorel. Il nazionalismo fornì eccitamenti, motti e formule al nazionalismo italiano, ma non elementi dottrinali, e sposandosi con elementi dedotti dalla realtà italiana, come fu vissuta e vista dai primi nazionalisti, siano entrati a formare l'ossatura concettuale della dottrina nazionalistica italiana. Questi elementi, che possiamo chiamare fecondi, solo per dire che non rimasero slegati o ornamentali nella suddetta dottrina, ma si sintetizzarono con elementi autoctoni o fornirono determinanti stimoli a suoi essenziali concetti e miti, provennero non dal nazionalismo ma da Sorel e dalla sua predicazione. Proprio la formazione del pensiero di Enrico Corradini, che fu il profeta insieme il fondatore del nazionalismo italiano e non cessò di alimentarlo e sospingerlo fino alla sua fusione con il fascismo, fornisce di ciò la più chiara testimonianza. Antonio Gramsci scrisse che il concetto corradiniano di nazione proletaria servì da ponte per il passaggio di molti sindacalisti rivoluzionari ispirati e infiammati da Sorel al nazionalismo. Ciò non solo è vero, ma è significativo dell'esistenza di canali sotterranei tra il pensiero di Sorel e il terreno da cui scaturirono le sorgenti del nazionalismo italiano. Il sorellismo irrorò quel terreno. È noto che Corradini fu scosso emotivamente da due esperienze che egli visse e soffrì e che misero in moto nel suo spirito sentimenti e pensieri che lo orientarono verso certi traguardi e rimedi. Scrisse Goffredo Bellongi che le idee gli nacquero per grazia di Dio in un impeto di amor patrio. Invero presero forma nel suo spirito idee che salirono dalle radici poste in lui dall'esperienza emotiva della disfatta di Adua e da quella del suo diretto e prolungato contatto con l'emigrazione italiana. Poco dopo Adua scrisse nel Marzocco dell'8 marzo 96: noi giovani che tante cose credevamo di avere oubliate, che tanto tedio opprimeva o tanto ardore di individuali aspirazioni, comunicammo a un tratto con l'anima del nostro paese violentemente. Con vari violenza si ripercosse in lui l'esperienza che gli visse recandosi a visitare alcune delle sedi di immigrazione italiana. Il fenomeno emigratorio fu il movente del suo concetto di nazione proletaria. Ci sono nazioni proletarie, egli scrisse, come ci sono classi proletarie. L'Italia è una nazione proletaria, basti per tutti gli argomenti la sua emigrazione. Essa è davvero la lavoratrice proletaria del mondo. Il nazionalismo dice che essa deve fare una politica di nazione, esattamente come il socialismo dice, è lui che parla, che la classe dei lavoratori deve fare una politica di classe. Il nazionalismo si rinnova e diventa il socialismo della nazione. Fu per l'appunto questo concetto del nazionalismo che, rinnovandosi, si costituiva e qualificava come socialismo della nazione, che diventò il centro dinamico del suo pensiero. Posto questo concetto, la guerra è da lui considerata come uno dei metodi del nazionalismo. Egli scrisse che il metodo di redenzione dell'Italia suggerito dal nazionalismo è la guerra, non soltanto nel senso di guerra guerreggiata, ecco che torna Sorel, ma anche nel senso di preparazione di tutta la vita nazionale alla guerra guerreggiata. Preparazione di guerra non è solo di armi, ma anche di animo, è una scuola di disciplina interna. di tutti gli organi della vita nazionale interna, ma è necessario, gli aggiunse, che gli italiani sappiano che in fondo ad ogni preparazione c'è la guerra, come i sindacalisti, e lui che parla, sanno che in fondo a tutta la loro preparazione sindacalista del proletariato c'è lo sciopero generale. Queste idee hanno dietro di sé, come abbiamo già notato, l'esperienza dell'emigrazione, ma furono stimolate dalla lettura di Sorelli, di cui ammirò e assorbì la polemica contro la democrazia e contro il socialismo. È stato detto che da un suo laudatore che questa polemica gli piacque tanto che ripensò la nazione come un grande sindacato di lavoratori. I lavoratori unificando tutti gli italiani come lavoratori. Gli industriali, gli operai, gli agrari, i contadini, gli impiegati, i professionisti, gli artisti. Esatto solo che aveva intuito l'importanza del movimento operaio e del sindacalismo ed era stato sedotto dall'idea che si potesse svelderli dai reticolati della classe e dalla sudditanza ai politici del Partito Socialista per integrarli nell'unità mistica della nazione, resa autocosciente dalla sua natura di nazione proletaria, lottando con la forza combatte di tutti i suoi concittadini contro le nazioni dominanti e sfruttatrici. Nel nazionalismo di Corradini c'è un sentore, l'ho già detto, di populismo, che lo collega alla tradizione nazional popolare del Risorgimento. Ma non c'è solo questo, c'è per esempio anche l'ondata abbondante dell'industrialismo che lo eccita ed esalta. Alcuni motivi derivano palesemente da Sorelli, pur se si trasfiguravano nel contesto del suo pensiero. La classe proletaria diventa nazione proletaria, lo sciopero generale del proletariato diventa la guerra della nazione proletaria, come realtà e come mito. D'altronde lo stesso Sorelli aveva posto rivoluzione sociale e guerra tra i popoli l'uno accanto all'altra, sullo stesso piano di fatti ugualmente idonei a ritembrare, come egli diceva, le energie vitali. Anche nel concetto della società dei produttori riecheggiano toni sorelliani, come la morale dei produttori nasce secondo Sorel dell'entusiasmo che accende negli animi l'idea dello sciopero generale, così l'unità morale dei produttori, secondo Corradini, nasce dall'idea e dal fatto della guerra. Anche per Corradini, come per Sorel, la morale è uno stato di entusiasmo collettivo e collettivizzando e non la dura imposizione degli imperativi della coscienza individuale. Quasi tutti i leaders nazionalisti negarono sdegnosamente la loro derivazione dal nazionalismo francese. Ovviamente non potevano ammettere di essere imitatori e non inventori. Ma in Corradini non ci fu solo la negazione, bensì anche il tentativo di differenziare il nazionalismo francese da quello italiano con riferimento alla differente realtà dei due paesi. Dando risalto alla differenza tra italiani e francesi in Tunisia, egli scrisse che la Francia può essere conquistatrice senza essere colonizzatrice, mentre l'Italia potrebbe essere colonizzatrice, ma solo le manca l'animo di essere conquistatrice, aggiunse irosamente, è un ex serva che ha paura di essere padrona. Salto per giungere, credo di aver detto l'essenziale su Corradini, quindi. Ecco, è stato rilevato che il nazionalismo può, pur chiamandosi associazione, si organizzò sostanzialmente come partito per operare in un'area sociale prevalentemente borghese e piccolo borghese, riluttante all'organizzazione propria dei partiti di massa, e volle tuttavia essere anche partito di piazza e di comizi, volle essere nello stesso tempo partito di palazzo e partito di piazza. Per dare a questa novità l'importanza che essa merita, bisogna ricordare che il nazionalismo è stata la prima organizzazione politica borghese nel nostro paese. I liberali non furono mai un partito prima del fascismo. Come è stato osservato, i termini liberale e partito organizzato erano termini antitetici. Prima del fascismo i liberali che pure erano maggioranza, non ebbero mai né un'organizzazione permanente, né un segretario generale, né fondi comuni, né un giornale di partito e neppure la disciplina parlamentare. Erano una costellazione di differenti gruppi di ispirazione liberale, ciascuno dei quali normalmente faceva capo ad un leader. Vanamente Sidney Sonnino, in un articolo pubblicato nel 1911 sulla Nuova Antologia, intitolato Partito Liberale e Suffragio Universale, dimostrò che il suffragio universale imponeva ai liberali di organizzarsi in partito, a pena di rimanere schiacciati tra socialisti e cattolici. Quell'appello non ebbe nessuna eco. Si organizzarono viceversa i nazionalisti. Sulla loro decisione di organizzarsi influì certamente la provenienza sindacalista di alcuni dei loro dirigenti. Ma io oso ritenere che proprio in questo campo il modello del nazionalismo francese abbia esplicato un certo influsso. Il nazionalismo francese volle essere soprattutto action française, e i nazionalisti italiani vollero crearsi subito lo strumento per agire. I sempre pronti per la patria e per il re, che come gruppi giovanili per l'azione diretta voluta e predicata dal nazionalismo fecero la loro apparizione a Bologna nel 1919, vollero ispirarsi agli arditi di guerra. Ma è impossibile allontanare la ipotesi che il loro vero modello sia da ricercare nei Camelot du Roi, che si erano distinti per le loro azioni di piazza inscenate nella lotta contro Dreyfus e i suoi autori. Ho voluto citare questo particolare non irrilevante per dire che probabilmente ci accade di andare a cercare l'influsso francese dove non c'è stato e di omettere di cercarlo dove effettivamente ci è stato. Una netta inversione della linea di tendenza a individuare, non tanto in Francia quanto nel nazionalismo francese, le fonti del nazionalismo italiano, ha segnato il libro, con cui finisco, di Paolo Ungari su Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo, apparso nel 1963. In primo luogo Ungari detronizza Corradini e accentra in Rocco, in Alfredo Rocco, i fili dell'ideologia nazionale che, perdendo le sue frange romantiche, riuscì a comporsi in coerente e ferrea dottrina. E in secondo luogo, ritenendo trascurabili le fonti francesi, sposta la ricerca nell'area della cultura giuridica e politica tedesca. Egli dice che non si rinvengono in Corradini elementi costruttivi di nuovi assisi della società dello Stato. Aggiunge che Alfredo Rocco, del tutto estraneo alle romantiche simpatie per il sindacalismo rivoluzionario di sorelle dei suoi compagni, guarda invece alle grandi e disciplinate organizzazioni operaie tedesche. Venuto in ritardo al nazionalismo, accetta senza beneficio di inventario tutto il bagaglio retorico e polemico corradiniano, ma per correre direttamente alle deduzioni sociali e giuridiche della pregiudiziale antiliberale dell'Associazione Nazionalista, che nel congresso del 1914 di Milano identificherà nel roffismo la sua dottrina. Secondo Ungari, l'originalità reazionaria del pensiero di Rocco, che risalta contro i vecchi uomini di destra ancora illusi dell'efficacia assestante dei mezzi di polizia di fronte alle grandi collettività umane sorte dalla produzione industriale di massa, si fonda su due elementi. Il primo è l'organizzazione di classe, da rendere mezzo ad una più salda disciplina sociale, elemento integrale necessario dell'autorità nei tempi moderni. Il secondo è quello di dare alle corporazioni cittadinanza e figura di diritto pubblico, ma per assidervi più ferreamente l'autorità dell'apparato statale. Lo Stato di Rocco, scrive testualmente l'autore, è un'armatura d'acciaio che costringe in un vincolo di dura solidarietà tutte le paretiane élite della società moderna, impresa, sindacato, partito, Stato e le rispettive burocrazie, sotto una direzione autoritaria, versione contemporanea, ma secondo una più precisa linea di pensiero giuridico della società organica sensimoniana e del sistema di politique positive di Comte. Il suo pensiero si differenzia nettamente dalla visione tutta letteraria o angustamente economica della media dei nazionalisti italiani. Rocco avrebbe valicato i limiti dello Stato sindacale e costruito lo Stato autoritario di masse, o totalitario, che tenda a inserire nella sua compagine l'intera vita civile della nazione, dando tuttavia forma in qualche modo all'esigenza di allargare la base attiva dello Stato. Egli guardò come a modello illustre alla Chiesa della Controriforma, democratica nella base di reclutamento quanto assoluta nella struttura di comando. L'autore cita una significativa dichiarazione dello stesso Rocco del 1932, secondo cui lo Stato fascista si afferma non soltanto come Stato autoritario, ma anche come Stato popolare, il solo tipo di Stato popolare che il mondo moderno abbia fino ad oggi creato. Quello che preme, non dirò di più ma molto all'autore, è ricostruire la linea del pensiero giuridico di Rocco. L'adesione di Rocco al nazionalismo, gli dice, fu la meditata e necessaria conclusione di un lungo itinerario attraverso le remote province della teoria generale del diritto. L'autore ritiene di comprovare questo iter citando quello che scrisse lo stesso Rocco in uno dei suoi primi articoli apparsi sull'idea nazionale, che cioè tutto il concetto dello Stato giuridico che i tedeschi hanno meravigliosamente elaborato e che la scienza del diritto oggi accetta quasi unanime si basa su questa concezione razionalistica, nazionalistica della libertà. Essa fa discendere le libertà individuali non più da un diritto preesistente dell'individuo, ma da una autolimitazione dello Stato, cioè da una concessione fatta dallo Stato nel proprio interesse. Riconobbe questa derivazione delle idee giuridiche di Rocco da teorie germaniche anche Francesco Ruffini, il grande Francesco Ruffini, ma solo per rimproverare Rocco di venire esumando, egli scrisse, dai fondachi della Germania dotta, resti di screditate teoriche reazionarie ad uso delle platee italiane, a quella guisa che i musicanti di provincia rilevano in blocco senza guardare tanto per il sottile, divisi e pennacchi smessi da quelli della metropoli. Ungari risponde a due quesiti pregiudiziali che si devono risolvere per concedere ingresso alla sua interpretazione di Rocco come inventore della dottrina nazionalista. Il primo quesito è se si possa considerare nazionalistica una dottrina desumibile e desunda dalle strutture istituzionali costruite da Rocco come guardasigilli di Mussolini. Il secondo è se si possa attribuire valore ad un'esperienza giuridico-costituzionale rimasta nella tecnica del colpo di Stato, restata come una ipotesi di nuovo diritto pubblico, un abbozzo di regime di massa senza compimento. Delle due risposte che dà lo scrittore, una è più convincente e l'altra meno. In primo luogo gli dice, e secondo me esattamente, che gli elementi essenziali della dottrina che si calò nelle istituzioni foggiate da Rocco come guardasigilli erano già nel suo pensiero di nazionalista. Tullio Ascarelli, citato dall'autore, scrisse che più che ogni altro Rocco fu il filosofo del fascismo. La parola filosofo è tra virgolette. Ma la sua filosofia, che diventò la filosofia del fascismo, istituzione, era stata già da lui esposta come nazionalista. In secondo luogo lo scrittore dice che contro un determinato sistema istituzionale non si può far valere per negarlo il divario tra i suoi concetti e il grado della loro realizzazione. Noi avremmo detto che anche se quell'abbozzo di regime, di masse, rimase senza compimento reale, esso è sempre valutabile come connessione di concetti tradotti in istituti giuridici. Passando al quesito, al merito, ci sembra di poter dire, primo, che lo scrittore ha forse troppo concesso alla tendenza di utilizzare nazionalismo e fascismo per costruire un concetto generale di Stato o regime autoritario di masse. La dottrina tende a questa costruzione come tipo di Stato che tende a reincarnare l'autorità nelle società industriali del nostro tempo, nelle quali i tradizionali strumenti burocratico-polizieschi sono sempre più impotenti. Il pensiero di Rocco certamente fornisce non pochi appigli a questa costruzione. Ma in tal modo si rischia di afferrare del nazionalismo come concreta esperienza storica solo alcuni aspetti. Secondo, che secondo noi non è del tutto esatto quello che dice l'autore, che cioè il pensiero giuridico di Rocco racchiuda il suo vero e vivo pensiero politico. Rocco non soltanto fu politico oltre che giurista, ma le sue stesse costruzioni giuridiche restano senza vita se si svuotano della loro anima politica. Terzo, non crediamo che si possa dire che Rocco accettò tutto il bagaglio retorico e polemico corradiniano senza beneficio di inventario. Solo cinque minuti. Alcuni motivi corradiniani, come ad esempio l'idea dell'espansione nazionale basata sulla realtà dell'immigrazione, furono da lui non solo accettati ma sviluppati e pensati assai più conseguenziariamente. Una compiuta ricostruzione del pensiero di Rocco, anche nel suo aspetto giuridico-istituzionale, in cui esso culmina, non può prescindere dall'esame di tutti i suoi aspetti, che furono ideologico-politici, sociali ed economici. Non si deve dimenticare che Rocco esordì nel congresso di Milano del 1914 con la relazione sul programma economico, redatto in collaborazione con Filippo Carlo. Quarto, se si vuole intendere l'effettiva realtà del nazionalismo italiano, sia come pensiero che come azione, che raccolse ed organizzò consensi, non si può sottovalutare la parte in esse svolta da Corradini. Chi ha parlato di un asse Corradini-Rocco come l'asse portante del nazionalismo italiano si è avvicinato assai di più alla realtà. Benedetto Croce incluse tra i motivi importati dalla Germania dal nostro nazionalismo la divinizzazione dello Stato. Invero, il nazionalismo italiano non tanto divinizzò lo Stato, quando divinizzò la nazione. C'è molta differenza. In uno dei punti più stimolanti del suo saggio, Paolo Ungheri osserva che il pensiero di Rocco si situa alla foce di un lungo e complesso corso in cui si consumò la crisi del tradizionale costituzionalismo. La stessa nozione astratta di Stato come potere pubblico impersonale sovrastante i movimenti della società sembrò vacillare e risolversi in quest'ultima crisi di disgregazione su cui si levò l'esigenza di una sintesi nuova. Orbene, nella sintesi costruita da Rocco si vede la società organizzata nei suoi gradi e nelle sue forme, e su di essa si vede e si sente sovraneggiare il governo, ma non si incontra lo Stato. Di ciò si avvede lo stesso scrittore quando nella conclusione del suo saggio riconosce che la dottrina biologico organica della società è muta sul problema decisivo del centro di propulsione del sistema. Il quesito, egli aggiunge, non è risolto con l'universale sottomissione a un capo carismatico. Io vorrei permettermi di osservare che non è risolto nel pensiero di Ungheri, ma che è risolto nel pensiero di Rocco. Quella che lo scrittore individua come la risposta effettuale data al quesito dall'esperienza storica, cioè l'effettività di un regime di burocrazia e di polizia, fu la risposta più coerente al sistema, ma avvertendo che questo regime aveva indispensabilmente il suo centro dinamico nel capo carismatico. Nel sistema foggiato da Rocco e in cui culmina la dottrina politico-costituzionale del nazionalismo italiano c'è la società organizzata e c'è il governo che come organo motore si attivizza solo nel capo del governo, ma manca lo Stato di cui avanzano solo alcuni segni e reliquie. A questo approdo si poté giungere e si giunse in quanto si partì dal positivismo, tanto più operativo, quanto più ingenuamente accettato e praticato. Comte, nel suo Système de politique positive, aveva annientato idealmente lo Stato come entità metafisica, come egli lo chiamò, ed aveva messo al suo posto proprio la società organizzata nei suoi gradi e nelle sue forme, sottoponendola al governo come unico potere direttivo e coercitivo. Comte spiegò che lo Stato è un'astrazione, forgiata dai giuristi e non può perciò trovar posto nella società positiva, fatta tutta di poteri e di cose reali. Egli lo negò come entità irreale e invisibile, in quanto sintesi di poteri che si autolimitano e si autoalimentano, cominciando a sorgere dalla coscienza dei singoli uomini, la società fatta di corpi e il governo operante attraverso strumenti si vedono, ma lo Stato non si vede. Non lo vide neppure il nazionalismo, che con oscillazioni e deviazioni continuò a camminare come modo di pensare sulla strada maestra del positivismo, rimasto sempre la sua principale fonte culturale. Io salto e concludo. Dal lavoro da me compiuto per preparare e pensare questa relazione ho tratto una lezione che ne costituisce la logica conclusione. Lo stesso nazionalismo, con le sue lacerazioni, contraddizioni, aberrazioni, non è ricostruibile e narrabile che come un momento della storia unitaria dell'Europa. Anche il nazionalismo testimonia paradossalmente la realtà dell'Europa come unità. Esso lacera il corpo dell'Europa perché questo corpo veramente c'è. Le corpo litic, le corpus cristiano, c'è il corpo dell'Europa. Se non ci fosse, non sarebbe lacerato. La sua lezione consiste appunto nel ravvivare in noi la coscienza dell'Europa, che sola può aiutarci ad impedire che le sue divisioni si ingattiviscano, fallendo nello sforzo di comporsi ad un più alto livello di solidarietà. Questo sforzo non si vede, passa per vie profonde, sta a noi scoprirle tempestivamente. Ringrazio molto il professor Vallituzzi di questa sua così ricca e così penetrante analisi, che si rivolge, è vero, a quello che gli chiama il nazionalismo vero. Sì. Cioè quando il nazionalismo italiano prende forma e figura, in certo senso, si delinea in un programma. Le origini... Ma senti, scusa, sono molto prosaico. Cominciamo la discussione dopo. Sì, d'accordo. Che deve distribuire, d'accordo, il cacciavendere di aria. D'accordo. E dopo va via. D'accordo. Sono sempre preciso che si tratta di questo nazionalismo vero, è vero, qua non è una discussione, è una messa appunto sottolineata, cioè quando il nazionalismo italiano prende forma e figura. Ed è veramente, ti siamo veramente grati, perché c'è non solo l'apporto dell'uomo di cultura largamente informato e meditato, ma c'è anche l'apporto di un'esperienza concreta di uomo che ha vissuto la politica e che vive quindi, è vero, questi problemi. Direi, permetti se non... Dimmi. Io direi che in certo senso si riconnette questa con una tradizione storiografica dell'Ottocento. Il grande uomo politico è nello stesso tempo grande storico, Thiers. Dire una parola sola, però dicevo, una delle mie poche qualità è di essere breve. A proposito del problema che aveva posto all'inizio il professor Vallituzzi, cioè delle origini autoctone, diciamo, e invece delle influenze europee su questo che egli chiama il nazionalismo vero, direi a proposito soprattutto di certi atteggiamenti spirituali, certe prese di posizione, è vero, che sono state accennati, prese di posizione, per esempio la nazione concepita come un dato naturale e non un dato ideologico in certo senso, no? come volontà di potenza, eccetera, vorrei ricordare che, qua è un riferimento crociano in certo senso, che questo atteggiamento spirituale si connette con un movimento che è stato qualificato un secondo romanticismo dalla fine del secolo, inizio del secolo nuovo. Movimento spirituale di rivolta contro il positivismo, di critica al positivismo e quindi alle sue origini illuministiche. Venne addirittura qualificato questo movimento come rivolta contro la ragione. Valorizzazione di elementi razionali, contrapposizione alla ragione dell'idea di volontà di potenza. In Italia è diffusissimo, per esempio, un niccianesimo deteriore, un niccianesimo spicciolo, proprio l'assenso della volontà e l'azione, anche un'influenza notevole di Sorel come tale. È vero, si era parlato di influenze marxiste, il sindacalismo rivoluzionario di Sorel ha una notevole incidenza, è vero, sulla formazione di queste dottrine nazionalistiche, è vero. Poi un'altra cosa, giustamente il professor Marizotti ha detto che non possiamo prendere un D'Annunzio, per esempio, come un fattore della dottrina nazionalistica, ma come una testimonianza, sì, come l'espressione qualche volta eloquente ed immediata di uno stato d'animo. Si era parlato, per esempio, dell'esaltazione del fenomeno guerra, D'Annunzio, il paradiso è all'ombra delle spade, dei valori razionali, anche lì cito, è vero, così, per, come testimonianza, diceva, non come giustamente tu avevi sottolineato, non si tratta di un contributo, ma di una testimonianza eloquente che ha avuto la sua suggestione, dice volontà come rivolta contro la ragione, volontà, voluttà, orgoglio, istinto, quadriga imperiale, tipico D'Annunzio. E vorrei aggiungere a questa testimonianza d'annunziano, anche un'altra corrente letteraria che in quel momento era in pieno fiore, il futurismo. Arriviamo paradossalmente a questo, che il mito di Roma, cioè questo riferimento al passato, viene tradotto in termini abbastanza elementari da questo movimento futurista che proietta, è vero, l'Italia e lo spirito italiano derivato da Roma come un culmine di possibilità, è vero, innovatrici, eccetera, eccetera. Era semplicemente questo che io volevo dire, e poi si potrebbe ricordare anche tutto quella, le riviste letterarie, è vero, il nostro Prezzolini, Papini stesso, è vero, eccetera, come si chiamavano le grandi riviste letterarie? La Voce, La Voce, perfettamente, eccetera. Beh, adesso però io voglio dare la parola a voi altri. Chi è che vuol prendere la parola? Vediamo, cominciamo sistematicamente. Nessuno? Uno? Perfetti? Beh, io mi riservo più tardi, perché come molti temi, fra l'altro... Va bene, ti riservi più tardi, cioè non in questa relazione. Secondo come va la discussione. Ho capito. Lei? No, lei? Lei? Cupenaro. Benissimo, benissimo. Iniziamo con noi. Allora, lei è il signor? Cuppellaro. Lei? Sì, vorrei dire qualcosa. Benissimo. Conte. Volino. Sì. La voce femminile, il fatto di volontà di potenza. Sentiamo solo. Buonasera, lei no. Lei? Signore. Questi signori hanno intenzione di... Ecco, Pustelgar. C'è qualcun altro? Non c'è niente. No, ma adesso volevo lì il Corazzo. Proprio, ma è una questione. Sì, sì, sì, sì, sì. Corazzo, no, la signorina Mirce, la signora. Adesso qua. Eventualmente dopo se vuole una cosa femminile. Come no? Degna rappresentanza femminile. E lì. Va bene. Allora cominciamo dall'inizio. Velari, per fare. Ah, ho capito, va bene. La mia non signor è Conte. Conte. La mia però non è una domanda, non è in fin dei conti nemmeno una richiesta di chiarimento. È un'osservazione che mi viene di fare. Diciamo, una cosa che mi è venuta in mente in questi giorni ascoltando queste prime relazioni è che secondo me è particolarmente importante fare, anche rispetto ad un tema come quello oggi in oggetto, un tema delicato da affrontare, cioè i presupposti culturali di un problema come quello del nazionalismo. Però io credo che anche un tema come quello delle origini e dei presupposti culturali del nazionalismo vada esaminato social disciplina, se no non lo si può. Sotto altri? Socialgeschichte, cioè dal punto di vista della storia sociale. Ah. Sì. Oggi il professore è già difficile intendersi. No, sentiamo. No, sentiamo, sentiamo. Voglio capire bene. Oggi, di fatto, il professor Valitutti ha fatto una hit per il Vandero, cioè, così, mai nei piani. Diciamo, sono saliti alla ribalta una serie di pensatori, di politici, di pensatori politici. Sono state tratteggiate le linee di correnti spirituali, fatti collegamenti, oppure negati collegamenti che sarebbero ingiusti, tipo quello fra destra storica e nazionalismo, e poi ovviamente fascismo. Ora io dico, tutte queste cose sono naturalmente estremamente importanti. Però ho idea che dovremmo cercare di capire anche come si diffondono le idee, perché, attraverso quali canali, rispetto a quale pubblico, arrivare cioè in certo qual modo ad una sociologia del nazionalismo. Altrimenti si corre il rischio di continuare a fossilizzare il nazionalismo in un orizzonte, questa volta idee cicli, cioè di storia delle idee, che alla fin fine rischia di lasciare troppi importanti aspetti al di fuori del campo della nostra osservazione. Vabbè. Posso rispondere subito? Forse meglio, sì, sì, io sì. Direi di adottare il sistema della risposta non collettiva ma individuale. Sì, sì. Benissimo. Prima vorrei, però, ecco, vorrei prima fermarmi su quello che hai detto tu, ecco, a proposito del razionalismo. Sì. Certamente il razionalismo fu uno dei protagonisti di quella situazione socio-culturale in cui si produsse il nazionalismo, cioè in cui nacque, cominciò a nascere il nazionalismo, e certamente da questo clima influenzato dal nazionalismo, ovvero il nazionalismo trasse elementi e stimoli. Però io sono molto diffidente, vero, verso la parola, ti dirò, quindi non l'ho adoperata quasi mai, perché Croce insiste tanto sull'irrazionalismo. Ma rivolto contro il positivismo, sì, sì, ma io preferisco, viceversa, ecco, vedere l'irrazionalismo calato, in particolare indirizzi, evidentemente, di sicuro. Ecco, il razionalismo è un termine generico che abbraccia una varietà. Ecco, certamente il futurismo fu una espressione di razionalismo, però a fondo una espressione determinata, ecco. E così altri movimenti furono influenzati dall'irrazionalismo, ma bisogna vedere, ecco, io preferisco, almeno come mio metodo, vedere i vari movimenti particolari in cui operò, ecco, non vedere l'irrazionalismo come una nebulosa. In croce, l'irrazionalismo rischia di diventare una nebulosa. Io da una premessa troppo generica. Ecco la mia diffidenza. In quanto alle riviste, è una storia da farsi ancora, in verità è stata in parte già fatta, abbiamo antologie con introduzioni molto orientative, ma è da farsi forse in modo più approfondito la storia delle riviste fiorentine soprattutto, che fu Firenze la sede di queste riviste, il Marzocco, il Regno, la Cerva, l'Anima, il Leonardo, la Voce. Ora, io mi limito a dire una sola cosa che mi ha colpito vedendo queste riviste, che non pochi giovani intellettuali che vi collaborarono nazionalisteggiarono all'inizio, ecco, ma che poi via via davvero si staccarono, e anzi diventarono antinazionalisti. Ecco, il caso di Pressolini è il più significativo ed emblematico. Pressolini fondò con Papini e Corradini il Regno, ma poi ne uscì, e dobbiamo a Pressolini quella frase che scrisse subito dopo l'impresa di Tripoli, sulla sua voce, per dire che oramai il nazionalismo era stato liquidato. Anzi, dice che Giolitti con la impresa di Tripoli ha ucciso il nazionalismo, e diventò Pressolini uno dei più veementi antinazionalisti. Ho citato il caso di Pressolini, che è il più clamoroso, ma lo stesso Giovanni Amendola. Giovanni Amendola ebbe simpatie nazionalistiche, fu un po' affascinato, ma uno dei critici più spietati nel 13 del nazionalismo fu Giovanni Amendola. Lo stesso Papini, diventò Papini nel 1904, se ben ricordo, una specie di messaggero del nazionalismo. In Toscana fece molte visite a molti paesi a diffondere il nazionalismo, fu un predicatore, e tuttavia poi noi sappiamo qual è stata la vicenda di... Quindi, ecco, queste riviste si devono vedere, però, ma si devono vedere soprattutto sotto questo aspetto, cioè di espressione di un'inquietudine e di una ricerca che si avviare, soprattutto sta di l'animo. L'amico si chiama Conti, ha posto un quesito che direi però non investe la relazione, direi il tema della relazione, tantomeno investe il modo come il tema è stato svolto. Egli ha posto, se ho ben capito, una esigenza che non ha nulla a che fare col tema. Cioè, egli ha detto, bisogna vedere, vero, come le idee, le quali hanno un certo procedimento formativo, poi si diffondono nella realtà. Esempio specifico, il nazionalismo. Il nazionalismo fu una dottrina, naturalmente elaborata in minore o in maggior misura da determinati uomini. Ognuno di essi diede un suo contributo. Una volta definita la dottrina, come si è diffusa, egli ha detto, questa dottrina, ed è divenuta fede politica, animatrice di fede politica, vero, nella società. Ma questa è appunto la proposta di una ricerca da fare. Però a questo punto io mi vorrei permettere di dire al nostro giovane amico che egli vuole la storia del nazionalismo. Questa è la storia del nazionalismo, non è la sociologia del nazionalismo. Io il termine sociologia vero? È un po' come il panno rosso per me. Ma io però sono un uomo paziente e quindi accetto anche la sociologia, ma nei casi in cui bisogna accettarla, bisogna accettarla. Però in questo discorso mi pare che la sociologia non abbia nulla a che fare. Perché non ha nulla a che fare? È un altro tema. Qui si tratta di vedere. Il nostro giovane amico ha detto: noi dobbiamo fare la storia del diffondersi vero dell'idea nazionalista in Italia. E certo, questa è storia del nazionalismo. È storia del nazionalismo. Ma la sociologia proprio non vedo che cosa abbia da dirci al riguardo. Dobbiamo fare la storia. Come il socialismo sorse. E come si diffuse, quanti consensi riuscì a raccogliere e per quali motivi li raccolse, quali interessi spinsero gli uomini a consentire, a manifestare consenso, se furono interessi economici, ci furono e furono pesanti, interessi metallurgici, interessi siderurgici, e ci furono anche motivi ideali. Ecco, questa è storia del nazionalismo. Certo, anch'io sono d'accordo che è una storia sempre più da approfondire. Non è che non l'abbiamo fatta, questa storia, è vero? L'abbiamo fatta. Naturalmente bisogna rifarla, perché bisogna sempre più approfondirla. Appunto, questa è storia del nazionalismo. E non appunto, come dice qua il tema, specificamente, la formazione... No, io dovevo limitarmi... Perfettamente. Dovevo limitarmi, posso averlo fatto male, ma io dovevo limitarmi a ricercare quali i motivi espressi dalla cultura in Italia e in Europa, quali motivi influirono di più nel determinare, nello stimolare il formarsi di questa dottrina. Ecco, questo era il mio intento. Ecco. Lei, professor Valitutti, ha detto che la mia osservazione non ha niente a che vedere col tema in esame e appunto presupposti e origini culturali del nazionalismo. Secondo me ha molto a che vedere col tema in esame, proprio perché un tema come questo va, a mio modo di vedere, ovviamente, esaminato anche con una strumentazione diversa, alla quale non debbono essere, a mio modo di vedere, assolutamente estranee strumentazioni di tipo sociologico. Ma io veramente non capisco, rischio di non capire. Però, e come facciamo, come applichiamo la sociologia alla indagine relativa al pensiero di Nietzsche? Vi faccio un esempio. Supposto che noi in Nietzsche vogliamo ricercare dei motivi che poi hanno influito... Quali strumenti sociologici possiamo applicare alla indagine relativa a questo pensiero? Le faccio un esempio. Ecco, vi faccio un esempio per capire. Vorrei sapere, per esempio, chi è che leggeva le riviste che lei ha citato, quali erano i libri. Caro Conti, questo è un altro problema, ed è il problema che ho detto io. Perché quando, per esempio, Corradini faceva il regno, cioè scriveva sul regno, certamente... Il regno aveva dei lettori che o consentivano o dissentivano. Molti lettori del regno consentirono e quindi si cominciarono a formare dei gruppi proprio in Toscana. Papini si recò ad Arezzo, a Prato, a Lucca, a Pistoia, proprio per cercare di organizzare i mini gruppi. Dei lettori del regno che leggevano la rivista e gli scritti soprattutto di Corradini e se ne imbevevano, se ne entusiasmavano. Ma questo non ha nulla a che vedere con le idee di Corradini, cioè ha molto a che vedere con l'efficacia o educativa o diseducativa che quelle idee avevano. Ma noi poi dobbiamo studiare le idee di Corradini in se stesse, ecco. Non vedo quale apporto noi possiamo ricevere nello studio di queste idee di Corradini dalla rilevazione dei loro riflessi nell'animo e nella mente dei lettori. Ecco, non vedo, non nego però, caro amico, che questa indagine sia interessante e significativa, ma è un'indagine diversa da quella che richiedeva il tema, ecco, mi sembra di poter dire. Bene. Poi lei? Compedaro. Sì, io volevo dire, generalmente nella storiografia sul nazionalismo si è molto insistito sul suo carattere retorico e irrazionalistico in un certo senso. Si è parlato più volte di un primato della politica estera, che è un'idea che tra l'altro è già stata confutata e criticata. Sul posto di questa idea è forse il caso di citare quello che Alfredo Rocco scrisse nel 19, una frase sola: il movimento nazionalista in Italia non è affatto un incomposto moto di esaltati adoratori della guerra, ma è principalmente una concezione compiuta ed organica della società e dello Stato, una filosofia sociale e politica. Ora, la constatazione che, come è stato scritto in un altro studio, l'ideologia imperialistica italiana fu sin dall'inizio simbioticamente connessa ad un'ideologia di rinnovamento nazionale, si può ritrovare, si può confermare anche dall'esame delle idee di Corradini, che troppo facilmente è stato considerato come una specie di esempio paradigmatico di verbosità che, come scrisse Gramsci, della capacità di riempire la botte senza fondo della logica formale con i torniti periodi della lingua italiana. In realtà la guerra, per lo stesso Corradini, non è affatto esaltata e santificata di per sé. Questa piuttosto è riconosciuta analogamente alla lotta di classe, sempre a mio parere, come un fattore eterno, cioè insopprimibile ma non permanente della storia. Pena la dissoluzione all'interno della vita dello Stato come all'esterno del consorzio delle nazioni. Da tutta la letteratura nazionalista sulla guerra, durante la guerra, o almeno da gran parte di essa, emerge una costante attenzione alla questione del dopo, cioè la coscienza che le trasformazioni che la guerra ha portato nella società italiana, ad esempio nell'organizzazione dei rapporti, nell'intervento dello Stato e il suo ruolo nella vita economica, è un fatto irreversibile e che va nella stessa direzione indicata dal nazionalismo. In realtà, quello che il professor Valitutti ha detto nel libro di Lanaro, che è un libro abbastanza recente, secondo me fa solo in parte giustizia a questa indagine, tra l'altro molto vasta e piuttosto nuova, sulle componenti imperialistiche, nazionalistiche, se vogliamo anche produttivistiche di una certa parte della cultura italiana, nazionalistica in senso di vero nazionalismo, cioè di dottrina e partito compiuti, come di vario nazionalismo. In realtà quello che alle volte si è dimenticato di vedere appunto il nazionalismo come movimento, anche il pensiero di questi grossi personaggi sullo sfondo della situazione dell'epoca, che è una situazione umilitaria, ultima arrivata e per certi aspetti come la Germania ancora priva di un vasto possedimento coloniale, si deve farsi largo comitate a problemi enormi da risolvere, per esempio quello demografico. Sotto certi aspetti c'è una risposta precisa del nazionalismo, quello di impedire che l'emigrazione diventi una perdita secca, tutto sommato, per lo Stato, cioè che questo alleviamento demografico all'interno si possa però scaricare in dei territori che, tutto sommato, siano sempre parte integrante dello Stato. Benissimo, posso allora. A proposito di Carli, cioè, è stato un sorcento. Ecco, posso di Filippo Carli. Filippo Carli, anche di questo si parla nel libro di Lanaro, e ci sono per esempio dei brani abbastanza interessanti in questa antologia appena uscita, I nazionalisti. Sì, ce l'ho qui sul tavolo. A cura di Angelo Rossi. Sì. A mio parere è proprio un esempio dei più alti di questo, di questa alta coscienza dei problemi dello sviluppo delle forze produttive, dei problemi che la modernizzazione industriale pone in un paese un po' ultimo arrivato, un last round, come l'Italia. Quindi non si esaurisce, in sostanza Carli non è un filo protezionista da due soldi, magari così, finanziato dai siderurgici, ma una coscienza molto vasta, per esempio, del problema dell'istruzione tecnica, del superamento del classicismo, della mentalità secondo la quale si va, l'università erano piene ma diventano fabbriche di avvocati, di futuri impiegati, mentre mancavano i quadri per lo sviluppo industriale e magari per farsi venire dalla Germania. Cioè, c'è una coscienza veramente elevata e molto complessa di questi problemi di Filippo Carli. Sotto questo aspetto è anche, non si differenzia da lì, che a suo tempo ha avuto anche questa coscienza. Posso rispondere, Presidente? Posso? Anzi. Sì, sì, sì. Ecco, vorrei cercare di rispondere secondo l'ordine. Vero è che il nostro giovane amico, qual è il suo nome? Cuppellaro. Cuppellaro. Ha detto tante cose che non so se poi io riuscirò però, a rispondere a tutte secondo l'ordine che io mi propongo di seguire. In primo luogo vorrei dire per la politica estera che questo è stato un motivo caratterizzante di tutto il nazionalismo, il primato assegnato alla politica estera, è un motivo che però ricorre in quasi tutti i leader, i principali leader del nazionalismo, Rodini, Rocco, Maraviglia, Fogges d'Avanzato. In Corradini c'è, ricordo adesso, un pensiero che si esprime in questi termini a proposito di questo primato, che cioè tutte le altre politiche, le politiche interne, scolastiche, industriali, economiche, devono essere mezzi, ecco, alla politica estera. Ripeto, è un motivo ricorrente nei leader. L'uomo che poi, vero, tra i nazionalisti si specializzò nella teoria del primato della politica estera e quindi si dedicò ai problemi di politica estera fu Francesco Coppola, che fonderà nel 1918 una famosa rivista che si chiamerà Politica. C'è un pezzo della mia relazione che io ho saltato, dedicato anche a questo punto, cioè a Francesco Coppola, ma soprattutto per mettere in evidenza che tra i nazionalisti italiani Francesco Coppola è quello più legato al nazionalismo francese, il più morrassiano dei nazionalisti italiani. È ricordevole e famosa una sua lettera scritta sull'Idea Nazionale, ricordo bene, nel 2013, caro Morras, c'era un rapporto personale anche con Morras, molto antisemitico, vero anche Coppola, perché una nota caratterizzante del nazionalismo francese fu l'antisemitismo. Ma noi adesso ricordiamo Francesco Coppola soprattutto come l'intellettuale nazionalista specializzato per i problemi della politica estera e del pensiero del quale appunto ci fu questa più energica affermazione del primato della politica estera. Non mi pare di avere, a proposito di Corradini retore, condiviso il giudizio di Gramsci, anzi quelle poche paginette che ho dedicato alla ricostruzione del pensiero, dei motivi fondamentali del pensiero di Corradini, mi pare di averlo preso molto sul serio, non troppo poco sul serio. Però io considero Corradini effettivamente come uno degli uomini più rappresentativi del nazionalismo italiano. Vero è che c'era un fitto involucro di retorica in cui esprimeva, in cui così avvolgeva i suoi pensieri, però bisogna penetrare quell'involucro, trapassarlo e trovare i pensieri, e i pensieri c'erano. Naturalmente i pensieri si possono discutere e io li discuto, però i pensieri c'erano, quindi non era tutta retorica quella di Corradini. Il libro di Lanaro. Il libro di Lanaro, secondo me, io l'ho criticato perché ritengo che non abbia fondamento la sua tesi, cioè è troppo semplicistico, vero? Interpretare tutto questo lungo e complesso periodo della nostra storia nazionale, dai liberali al fascismo, null'altro che come azione della borghesia industriale e finanziaria, e che piega alle sue esigenze tutte le dottrine, tutti i partiti. E anzi, secondo me, Lanaro davvero dovrebbe estendere la sua interpretazione anche ad oggi, cioè anche oggi, davvero, la nostra vita nazionale, dati i presupposti da cui parte l'autore, dovrebbe essere incluso in questo ciclo di storia nazionale, vero? Perché ancora oggi c'è la borghesia industriale e finanziaria, vero, come protagonista. Quindi la indagine, la tesi interpretativa di Lanaro ha questo fondamentale difetto, vero, che non si ferma né al nazionalismo né al fascismo. Vero? Deve investire, investe, anche se non l'ha scritto, anche il presente, anche il presente. Vero? Tuttavia, è un libro, quello di Lanaro, secondo me, è un libro di utile lettura. Ha delle ingenuità, perché per esempio scopre Carpi. Sapete chi è Carpi? Lo sapete voi? Ne fa un personaggio centrale del pensiero politico italiano nel passaggio dal liberalismo al nazionalismo. Ma Carpi non era noto a nessuno. A te, storico, era noto Carpi? Non era noto. Però, ha delle ingenuità questo libro, però, tuttavia è un libro di un uomo intelligente che ha molto lavorato, ha molto ricercato, e quindi bisogna leggerlo. Io vi esorto a leggerlo, però la sua tesi non mi sembra. In quanto poi ai problemi relativi alle forze produttive, allo sviluppo di queste forze che il nazionalismo non ignorò, non sono io a negare, però ecco, quando noi facciamo la storia del periodo in cui il nazionalismo si formò, si organizzò, si diede un programma e costruì un'organizzazione, dobbiamo anche prestare attenzione ad altre forze politiche e sociali che si muovevano, ovvero, in quella fase della vita italiana. Ovvero, ci sono altri contributi allo studio dei problemi attinenti allo sviluppo delle forze produttive nel nostro paese. La polemica che allora si svolse in Italia tra liberisti e protezionisti è una polemica da studiare seriamente, ed è una polemica che rivelò uomini insigni e che manifestarono idee estremamente feconde per l'avvenire dell'economia italiana. Bisogna leggere Viti De Marco, bisogna leggere anche Pantaleoni, perché Pantaleoni fu un nazionalista ma liberista, bisogna leggere Einaudi, vero? Ci fu una polemica ricchissima e fecondissima. Ora noi, per non essere accusati di minimizzare il nazionalismo, per non essere accusati, perché nelle obiezioni del giovane amico ho visto affiorare un'accusa che io l'ho minimizzato, per il timore di minimizzare il nazionalismo non ci dobbiamo inibire lo studio di tutto quel momento della nostra storia nazionale, che fu molto più vario e molto più ricco di quanto gli stessi nazionalisti ritennero. Anzi, uno degli addebiti che sul piano storiografico dobbiamo oggi muovere al nazionalismo e ai suoi leader è proprio questo, che infatuati della loro idea, vero, prestarono poca attenzione alle altre forze della società nazionale che si muovevano e si sviluppavano. Ecco, questo è un addebito che io mi sento di fare ai nazionali, il loro isolamento intellettuale. Però, bastava essere socialista, bastava essere liberale per essere condannati e anatemizzati dai nazionalisti. E quindi non studiamo nel pensiero di questi uomini, che pure è un pensiero fecondo, come poi la storia successiva del nostro paese ha dimostrato. Ecco. Ma soprattutto io devo dire al nostro amico, poi mi fermerò anche su Carli, che certamente un'analisi, non solo quella fatta da me, sui presupposti e le fonti culturali del nazionalismo, ma ogni analisi che abbia per oggetto il nazionalismo è un'analisi un po' rischiosa. Per quale ragione è un po' rischiosa ed è imputabile di astrattezza? È rischiosa e imputabile di astrattezza perché a un certo punto si deve fermare. Il nazionalismo sorse come associazione, questo lo dico nella prefazione che non ho letta, sorse come associazione nel 1910, si costituì a Firenze l'Associazione Nazionalista Italiana, fece i primi tre congressi, anzi i primi due a Roma e a Milano, quello di Milano fu il terzo congresso nel 1914, e fu veramente il congresso in cui si definì la dottrina nazionalista, con un decisivo contributo di Alfredo Rocco, che pure arrivò allora al nazionalismo. Rocco era stato radicale, aveva avuto giovanili esperienze socialiste, poi fu radicale e militò attivamente nel Partito Radicale, infine passò attraverso i liberali e giunse alla fine del 1913 al nazionalismo, e fu il protagonista del congresso di Milano. Nella parte della relazione che io non ho potuto leggere c'è proprio quella frase che tu hai citato, che Rocco pronunciò nel 1919. Volle allora Rocco difendersi dall'accusa di bellicismo, dice: ma no, noi non è che siamo degli incomposti adoratori della guerra, abbiamo una dottrina politica, io lo dico. Ora però il nazionalismo, vero, visse in un certo senso come movimento autonomo lo spazio di un partito, perché, vero, nel febbraio del 1923 si fuse, si risorse, vero, nel Partito Nazionale Fascista. Quindi noi abbiamo un troppo breve periodo di tempo in cui, vero, si deve costringere l'analisi sul nazionalismo, dal 1910 al 1923. Ungari, io l'ho detto, ovvero esamina viceversa anche il pensiero di Rocco successivo a quella data del febbraio, e secondo me non sbaglia, perché, ovvero, nella legislazione a cui, soprattutto sullo Stato, sul sindacato, sull'organizzazione dei sindacati, nella legislazione a cui diede impulso e impresse il suo marchio Rocco, in fondo lui trasfuse una dottrina che aveva prima elaborato. Però, ecco, io riconosco che il costringere l'analisi avente per oggetto questo o quell'aspetto del nazionalismo, che poi continuò a vivere, ma a vivere in una più ampia formazione del fascismo, è sempre un po' rischioso ed astratto, astratto. C'è chi dice, questo ve lo dico, c'è qualche storiografo che sostiene che il fascismo non avrebbe avuto una sua dottrina e che la dottrina del fascismo, quella che ne ispirò l'azione, quella che poi fu, diciamo, il lievito e anche il criterio dell'organizzazione statuale del fascismo, questa dottrina sarebbe stata quella nazionalista. C'è chi appunto lo afferma, ma c'è anche chi lo smentisce. Gentile, per esempio, in quel libro che scrisse sulla dottrina del fascismo, lo nega, dice che non è vero, che cioè il nazionalismo non fu la dottrina, non diede la dottrina al fascismo. In ogni modo è una cosa da discutere, Però io ho voluto dire questo proprio per dire al nostro amico che dobbiamo tenere presente questo limite storico. A proposito di Filippo Carli, devo dirgli che Filippo Carli fu proprio uno di coloro che abbandonarono il nazionalismo. Il nazionalismo, ovvero, ebbe la collaborazione piuttosto tecnica di Carli, ovvero più tecnica che politica, fino al 1919. Però ci ritroviamo quando riesce, quando escono le leggi fasciste. Vabbè, diventa fascista, ma lui abbandona il partito, abbandona l'associazione, però, abbandona nel 19. Io ho guardato alcuni libri scritti da Carli nel 1924-25, già è un Carli diverso da quello che collaborò con Groppo nel 1914, che la relazione sul programma economico nel 1914 al congresso di Milano fu scritta in collaborazione tra Carli e Rocco, ma i libri successivi di Carli non sono riconducibili, però, tranne che per alcune fondamentali ispirazioni alle sue posizioni precedenti. Ecco, io ho voluto dire questo. C'è qualche cosa a cui non ho risposto, perché se c'è, ti prego di dirmelo, che io... Ecco, Corradini e la guerra. Ecco, ma io sono d'accordo, io non credo di averlo detto. L'ho detto perché Corradini era un po' veramente sorelliano su questo punto. Neanche Sorel voleva fare lo sciopero generale sempre. Per Sorel lo sciopero generale era un mito, e quando diceva che era un mito voleva significare questo, che i lavoratori, gli operai, dovevano pensare alla grande prova dello sciopero generale, quindi prepararsi. Adesso, e già questa preparazione era moralmente formativa. Certo, diceva Sorello, voi dovete pensare che un giorno verrà lo sciopero generale, vi dovete preparare. E lo stesso diceva Corradini. Non è che voleva la guerra ogni giorno, ogni mattina. Diceva, però gli italiani si devono preparare alla guerra. E già questa preparazione morale li disciplina. E lui ripeteva esattamente Sorelli. La guerra di Corradini era paragonabile come mito alla guerra di Sorelli, allo sciopero generale di Sorelli. Va bene. Accanto al problema del rapporto tra nazionalismo e fascismo, io credo che sia da ricordare anche il problema aperto del rapporto tra nazionalismo e il liberal nazionale di Calandra, al quale lei aveva fatto accenno nel corso della sua relazione. Ecco, io vorrei una sua valutazione su questo rapporto e sulla possibilità di parlare di una sorta di egemonia, ma un termine da mettere molto tra virgolette, della carica propagandistica nazionalistica, non soltanto nei confronti del personale politico liberal nazionale salandrino, ma anche attraverso quei miti che lei aveva ricordato, che sono stati ricordati anche ieri, nella cultura politica, nella opinione politica dei gruppi liberal nazionali. Ecco, questo era sostanzialmente la mia. Questo è un motivo che ricorre in alcuni storiografi, quello cioè del rapporto di continuità o di connessione tra liberali nazionali e nazionalismo. Il primo termine, quello di liberal nazionale, mi rende, come dire, molto perplesso, perché non si può parlare di una formazione omogenea alla quale si possa porre questo sigillo, quella cioè di formazione liberal nazionale. In realtà storicamente questa formazione liberal nazionale non c'è stata. C'è stata la destra storica. Ci sono stati uomini che singolarmente se ne sono allontanati e che sono stati poi identificati come liberal nazionali, ma sono singoli uomini. C'è stato solo il tentativo di Borelli, dei giovani liberali, nei primordi del nuovo secolo. Borelli pubblicò una rivista, se ricordo bene, la chiamava Azione, vero? E quello di Borelli fu però un effimero tentativo. Nel primo congresso dell'associazione nazionalista in cui si fondò l'associazione, quelli di Firenze, furono presenti dei giovani liberali borelliani. Ci fu quel famoso deputato Gallenga Stuart, che partecipò anche al congresso di Roma e poi credo a Milano non andò più. Che cosa avvenne? Io sono grato della domanda perché non l'ho potuto dire, non l'ho detta nella mia relazione, e adesso voglio dire, che cosa avvenne tra il congresso di Firenze del 1910 e il congresso di Roma del 1912? A Firenze furono presenti alcuni giovani liberal nazionali, furono effettivamente presenti. Il 12 ci fu la secessione, cioè un gruppo capeggiato da Scipio Sighele, vero, uscì dall'associazione proprio alla vigilia del congresso. La polemica però si sviluppò in seno al congresso tra i secessionisti e i fondatori più autorevoli dell'associazione. Che cosa pretendevano i secessionisti? E questo è molto significativo. Con questa pretesa motivarono la loro secessione. Pretendevano che l'associazione nazionalista italiana fosse una specie di superpartito, ma non di partito. E che quindi potessero farne parte uomini di differenti partiti. Democratici e anche liberali, cattolici, democratici, liberali. Questa era la pretesa dei secessionisti. L'associazione deve essere una accolta, una unione di uomini che sentono i problemi della nazione, ovvero le esigenze della nazione, più energicamente degli altri. Però l'appartenenza a questa unione nazionalistica non deve significare, vero, l'appartenenza ad un partito, perché ognuno di noi deve serbare il diritto di aderire ad altri partiti. Questo fu il tema. Poiché i dirigenti dell'associazione dissero di no, questo gruppo uscì. Forges d'Avanzati scrisse subito dopo un articolo sull'idea nazionale, molto importante, io lo cito nelle parti che non ho letto, perché che cosa disse Forges d'Avanzati? Disse che in politica, vero, o si sta nei partiti, una tesi liberale, o si sta nei partiti oppure si fanno delle chiacchiere. Ecco, questa fu la risposta che voglio dire. Se noi non ci siamo ancora costituiti in partito, perché non siamo abbastanza forti per fare il nostro partito, lo faremo, diceva la forza, però il traguardo è quello di costituirci partito. E noi siamo una dottrina originale, e dobbiamo osservare la nostra dottrina. Chi vuole stare con noi deve scegliere, vero? O sta con noi e quindi abbandona i partiti di provenienza, oppure resta nei partiti di provenienza. Questa fu la tesi, vero, di Forges Avanzati, che prevalse, che era già prevalsa nel congresso. Quindi i liberal nazionali, che erano stati nell'associazione, uscirono. Ci fu, mi ricordo, una dichiarazione di Gallenga, proprio questo Gallenga Stuart, che era un italo inglese, ci fu una dichiarazione, era uno molto sentimentale, dice: ma io mi continuerò a sentirmi. Però neanche lui uscì dal, diciamo, abbandonò la milizia liberale, però dice: però io continuerò ad essere idealmente con voi, e rimase idealmente con voi. Ora però io devo dire al nostro giovane amico che questa storia dei liberal nazionali non si esaurì in quel momento, è continuata. Noi abbiamo, è lo stesso Salandra, io lo considero un liberal nazionale, però un movimento liberal nazionale non c'è mai stato, tranne che nel tentativo effimero di Borelli. Questa. Altre domande? Sì, io ho letto una questione legata al metodo della sua interpretazione, anche perché lei ha fatto un distinzione tra dottrina politica netta e qualcosa di altro, più vasto, non ho capito bene, ma qualcosa di altro. Lei ha fatto D'Annunzio non è entrato nella dottrina politica del nazionalismo, ma in un altro modo ha una ragione di certa influenza. Forse questa distinzione è un po' la distinzione che si fa in parte della storiografia moderna, dove si parla di, a una parte, ideologia come teoria coerente, all'altra parte di mentalità collettiva. Cosa pensano le gente? Non coerente, ma cosa pensavano? E è molto più difficile a trovare quel mentalità collettiva, ma in un certo modo tu l'ha detto anche, ci vuole, perché lei ha fatto una presentazione della teoria, sì, della, sì, dottrina politica del nazionalismo, ma l'importanza di questa teoria, perché esistono tante teorie. Ecco, adesso ho capito bene quello che non ho capito ascoltando lui, quindi sono in grado di rispondere. Perché è la stessa osservazione, però espressa più chiaramente. Ma questa domanda investe, questo ti riguarda, Presidente, investe la identità del tema di questo congresso, questo convegno. E perché investe la identità del tema? Che questo convegno ha per oggetto il nazionalismo, vero? Può darsi che io lo abbia erroneamente interpretato, perché il nostro amico ha detto esattamente questo, che il nazionalismo si distingue nelle varie ideologie in cui esso si è espresso, e quindi nelle organizzazioni, alle medesime corrispondenti dove queste organizzazioni sono sorte, il nazionalismo francese, il nazionalismo tedesco, il nazionalismo italiano, quindi dottrina nazionalista francese, dottrina nazionalista tedesca e dottrina nazionalista italiana. Però fu anche movimento, dice il nostro giovane amico, sociale, popolare, ci fu un nazionalismo che non si espresse in una teoria, in una ideologia e quindi in un partito, ma tuttavia si diffuse, si sparse, animò uomini e forse, ecco, lui da tedesco, danese. Da danese, lui da danese, ma quello che dico vale anche per la Germania. Lui da danese ha più ragione di un italiano di dirlo, adesso mi spiego. Ha più ragione perché in Danimarca non c'è stato un partito nazionalista, vero? Ma noi, ecco la singolarità del caso italiano, è stato questo, che noi abbiamo avuto un partito nazionalista, il quale partito nazionalista, e questo bisogna dirlo perché è la verità storica, si è ritenuto un partito privilegiato rispetto agli altri partiti. Il partito della nazione, per aiutare a capirlo, voglio ripetere qui una frase che disse Rocco a proposito del partito nazionalista che si andava formando sia pure come associazione. Dice: c'è un modo di intendere il nazionalismo come salsa. La salsa, sa cos'è la salsa? Che si mette nei vari, è un condimento che si mette nei vari cibi. C'è un modo di intendere il nazionalismo come salsa e il modo di intenderlo come vivanda, cioè come piatto di, mettiamo, di pasta asciutta, come vivanda. Ora dici, ci sono degli italiani, stia bene a sentire, che intendono il nazionalismo come salsa, che si deve mettere in tutti i partiti, in tutti i piatti, condimento, condimento. Quindi il nazionalismo ridotto a patriottismo. Noi nazionalisti, viceversa, lo intendiamo come vivanda, ha capito? Ora lei mi ha fatto questa domanda: parlateci del nazionalismo come salsa, vero? E noi, io ho parlato del nazionalismo come vivanda, questo è, ma perché ho interpretato così il tema, perché ci fu una salsa. E in un momento della storia europea il nazionalismo è stato anche sentimento popolare. Questo lei voleva che noi dicessimo, vero? O almeno diffuso in certe categorie. Diffuso? Forse in una certa epoca. Forse anche la mia questione un po' come questa salsa ha influenzato. Come questa vivanda ha influenzato gli altri? No, la vivanda del nazionalismo italiano, che parliamo della nostra vivanda, vi stavo dicendo, poi mi sono interrotto, la vivanda del nostro nazionalismo italiano ha avuto questa pretesa di essere l'unica vivanda igienica e salutare, perché diceva tutte le altre vivande sono tutte un po' infette, vero? Non salutifere. Solo la nostra vivanda è buona, perché è la vivanda della nazione, capito? Ecco, quindi il caso italiano è un caso un po' singolare. Non si è verificato questo neppure in Germania. In Germania non c'è stato un partito nazionalista. Come? Un partito come organizzazione, come partito nel senso letterale della parola. Grazie. No, una presa di posizione di una parte dell'opinione pubblica, ma proprio qua, in Italia, la caratteristica è un'organizzazione politica, un partito vero e proprio. Perché neanche in Francia il nazionalismo è stato un movimento, ma non un partito. Anche in Francia non è stato un partito. Però delle organizzazioni che operavano in certi partiti. Certo, Ma infatti il congresso, io ho citato il congresso del 12 a Roma, ebbe proprio per tema questo, se il nazionalismo doveva essere un partito oppure no, doveva spargersi in tutti i partiti. Ecco, questo fu il tema del congresso. Ma dobbiamo andare perché secondo me, non sono un specialista del nazionalismo italiano, ma secondo me il partito nazionalista era un partito, sì, ma anche un pressure group in un senso moderno, un gruppo di pressione, di tecnici che si hanno messo nel centro dello Stato e anche nell'economia. C'era la visione di un partito certo, ma anche qualcosa di altro, più legato alle esperienze di viaggio. Ma veda, questo che lei dice, sì, ci impone di considerare altri aspetti della situazione in cui operò il nazionalismo. Quali altri aspetti? Che, ma sempre nella concreta situazione dell'Italia, noi nel 1911 abbiamo avuto il primo cinquantenario dell'unità del Paese. A Roma ci furono solenni manifestazioni per festeggiare il cinquantenario. E il caso volle che maturasse nella storia europea il problema della Tripolitania, della Libia. C'erano delle antiche aspirazioni dell'Italia ad occupare la Libia. Perché c'erano queste aspirazioni? Perché i francesi si erano insediati in Tunisia, la Libia fronteggia l'Italia, la posizione mediterranea dell'Italia era stata un po' compromessa. Si temeva soprattutto che in Libia giungessero anche i francesi. Per cui, se lo Stato italiano non avesse occupato la Libia, che era allora sotto protettorato ottomano, sarebbe stata accerchiata nel Mediterraneo. E quindi il governo di quel tempo, che era presieduto da Giolitti, un liberale, decise lo sbarco delle truppe italiane in Libia. Quindi ci fu la cosiddetta guerra libica, che ha avuto una grande importanza politica. Perché ha avuto una grande importanza politica? Era la prima impresa nazionale che lo Stato faceva fuori dei confini. C'era stata la disfatta di Adria, che aveva molto turbato gli italiani. Quindi sembrò, che con quella impresa dello sbarco dei soldati italiani in Libia si recuperasse il prestigio nazionale. E questo fu un eccitamento al nazionalismo, anche come sentimento, non solo come partito organizzato, anche come sentimento. Questo sì, è vero. Ci furono, è vero, manifestazioni, consensi all'impresa libica, anche al di fuori dell'organizzazione nazionalistica, manifestazioni e consensi che erano, per così dire, espressione di un nazionalismo spontaneo, per queste ragioni che ho detto io. E lo stesso accadde, ovvero nel 1915, quando scoppiò la guerra mondiale, cioè la guerra scoppiò nel 14. L'Italia dichiarò la neutralità, ma poi prevalse nel paese, non nel Parlamento, prevalse nel paese un'ondata sentimentale per l'intervento dell'Italia in guerra. Ci furono manifestazioni, in un certo senso fu coercita la volontà del Parlamento, perché il Parlamento nella sua maggioranza non voleva la guerra. La passione irredentistica, c'erano regioni italiane ancora sottomesse all'Austria, Trento, Trieste, però questa passione mosso gli animi. Ci fu una crisi di governo, ecco, entra in scena il liberal nazionale, Salandra. Salandra diventò presidente del Consiglio. Ministro degli esteri Sidney Sonnino. Sonnino non era un liberal nazionale, ecco, questo va chiarito, non era affatto un liberal nazionale, era un conservatore, illuminato, ma di idee liberali, piuttosto moderato nell'allargamento, diciamo, dello Stato, però bisogna ricordare che Sonnino, pur avendo questo timore di eccessivo allargamento, nel 1911 votò il suffragio universale, cioè approvò Giolitti, e Giolitti volle il suffragio universale. Il nuovo governo, presieduto da Salandra, con Sonnino, ministro degli esteri, concluse il famoso patto di Londra per l'intervento dell'Italia in guerra. Ma il paese, ecco, in quel momento si spaccò, si spezzò. Una grande parte del paese, per esempio il Partito Socialista, non voleva la guerra, non la voleva Giolitti, e rappresentava larghe correnti liberali nel paese, la volevano i nazionalisti. Anzi, i nazionalisti in un primo tempo la volevano accanto agli imperi centrali, poi si persuasero, vero? E quindi accettarono la guerra anche contro l'Austria e la Germania a fianco dell'Inghilterra e della Francia. Ma certamente nel paese ci fu una temperie nazionalistica, anche al di fuori dell'organizzazione, ovvero politica della salvezza. Questa è la verità storica. Adesso dobbiamo pensare non solo alla salsa, ma anche alla dobbiamo andare su, se non facciamo troppo tardi. Sì. Senza dubbio. Possiamo... Allora riprenderemo la discussione questo pomeriggio. Sì, dopo la relazione. Dopo la relazione, come si è fatto ieri. Due relazioni. Perfettamente. Also, wir hatten noch fünf Wortmeldungen, avevamo cinque domande da porre all'onorevole Valli tutti. La prima era la mia, ma io rinunzio. No, perché io volevo tornare sul rapporto nazionalismo-fascismo. Ich wollte eigentlich den Herrn Valli tutti noch auf die Zusammenhänge Nationalismus-Faschismus fragen. Und wollte sagen, dass heute Morgen der Eindruck, den ich seit langem habe, bestätigt worden ist, dass nämlich im italienischen Faschismus eigentlich sehr wenig Neues ist, sondern dass sowohl was die Doktrin wie auch was Aktion angeht, im Nationalismus eigentlich die wesentlichen Dinge schon drin sind. Negli scritti di Rocca e di Corradini come dottrina e nelle radiose giornate di maggio come azione, io vedo una specie di fascismo già esistente, già pratico, e volevo insistere su questo aspetto, che cioè il vostro fascismo è molto più tradizionale che il nostro nazionalsocialismo. Hitler disprezza i nazionalisti guglielmini, mentre Mussolini assume le loro posizioni. Ich wollte das eigentlich sagen, damit man aus der Nationalismusdiskussion auch nochmal in die Nationalsozialismus- und Faschismusdiskussion käme, denn gerade heute Morgen hatte ich den Eindruck, dass ja eben die traditionellen, die nationalistischen Motive im italienischen Faschismus sehr stark gewesen sind, also nicht diese radikale Zäsur mit der Vergangenheit bestand. Aber vielleicht, per forza, spostiamo tutto. Adesso dovrebbe parlare la professoressa Campani. Io avevo il nome di Gabari, Petersen, Perfetti, Serra, però allora mi pare che tocca a me. Se può rispondere anche da qui, per la registrazione. Allora, sì, venga, la sua denanza. Petras in denuncia, sì, purtroppo adesso bisogna abbreviare il discorso. Però io voglio rispondere anche a questa domanda. Anzi, cominciamo con rispondere. Grazie. Wobei man jetzt ja erstmal sagen muss, dass es für uns, glaube ich, ja ein ungeheurer Eindruck ist, selbst vor allen Dingen für die aus dem außerbayerischen Raum, aber selbst für uns, dass also ein Kultusminister imstande ist, einen solchen Vortrag auf der Fülle der Quellen zu halten und eine solche Diskussion zu führen. Allora questa è per voi un'esperienza eccezionale, avere al tavolo qui da noi un ministro, no, un ministro dell'istruzione pubblica in grado di fare così, presa dalle fonti, una tale conferenza e discussione. Ecco, certamente ci furono degli elementi differenziali tra nazionalismo e fascismo. C'è una interpretazione storiografica secondo la quale la dottrina fascista, specialmente quella che si istituzionalizzò nella formazione dello Stato e degli altri strumenti pubblici, sarebbe stata la stessa dottrina nazionalista. Cioè, quando i due organismi si fusero nel febbraio del 1923, non il fascismo avrebbe catturato il nazionalismo, ma il nazionalismo avrebbe catturato dottrinalmente il fascismo. Io invece sono convinto che ci siano stati elementi aggiuntivi proprio introdotti dal fascismo nella sistemazione generale dello Stato. Mi limito a citare un solo esempio. Ci fu una controversia nel Gran Consiglio quando il guardasigilli Rocco presentò il progetto di legge per il riconoscimento giuridico dei sindacati. I nazionalisti, coerentemente con la loro dottrina, volevano dei sindacati misti. Viceversa, fu proprio personalmente Mussolini che proponeva il socialismo a imporre la formazione di sindacati distinti, cioè quella legge riconobbe i sindacati non misti ma contrapposti. Ecco, è un esempio di differenziazione tra fascismo e nazionalismo. Il fascismo, io sono d'accordo con quello che lei ha detto, effettivamente si inserì, fece lo sforzo di inserirsi assai di più nella tradizione nazionale di quanto abbia fatto il nazionalismo in Germania. Ecco, io vorrei che noi tenessimo presente, per capire questo sforzo fatto dal fascismo di inserimento nella tradizione nazionale del paese, che lo Stato fascista era sempre uno Stato monarchico, cioè era uno Stato che aveva come capo, ovvero il monarca, che era il vertice di una tradizione nazionale. La monarchia aveva, la monarchia piemontese, la monarchia di Savoia, aveva guidato lo sforzo dell'unità e quindi intorno ad essa si erano raccolti affetti, ricordi, anche movimenti, e di ciò il fascismo dovette tener conto. Non è un fatto solamente decorativo, non fu un fatto solamente decorativo. Teniamo presente che quando il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, che era il supremo organo costituzionale dello Stato fascista, mise praticamente sotto processo Mussolini e gli votò la sfiducia, ovvero il riferimento, ovvero di questo atto di sfiducia, fu quello appunto verso il re, cioè chi risolse quella crisi costituzionale, vero? Sia pure in modo anomalo, fu il re. Cioè, che cosa disse l'ordine del giorno che fu approvato quella notte nel Gran Consiglio del Fascismo? Disse che bisognava restituire i poteri al capo dello Stato, cioè al monarca. Ora, proprio questo atto, questa decisione, attestò quella notte che c'era ancora la possibilità di questo riferimento, ovvero ad un avanzo dello Stato risorgimentale, che era il monarca. Ecco, questo, concludendo la risposta, voglio dire al nostro amico che dobbiamo sempre considerare tra nazionalismo e fascismo, anche se si fusero, e anche se è vero che una larga parte della dottrina nazionalista si trasfuse nel fascismo, dobbiamo sempre tenere presente che il fascismo come movimento politico ebbe basi più popolari che non il nazionalismo. Il nazionalismo fu un movimento molto più di élite, vero? Di borghesi, di intellettuali. E il fascismo, che aveva un po' le sue radici nella guerra combattuta, vero? Era più popolare, vero? E quindi ebbe un potere di reclutamento nella società nazionale assai più capillare di quello del nazionalismo, e questo condò, vero? Nella sintesi, vero? Dei due movimenti. Grazie. È so langsam gesprochen, das Italienisch muss man alle verstehen, lo devono capire tutti. Allora diamo la parola subito a Perfetti, poi la professoressa Garbari e poi Serra. Io devo dire preliminarmente che pezzo in carta, sì. La relazione del professor Balitutti è talmente stimolante che no, non basta questo. Suscitere una serie di discussioni e di problemi che non lascerebbero, che non sono consentiti in questa sede, anche per la lunghezza che provocherebbero. Ecco, io quindi vorrei accennare soltanto ad alcuni punti. Prima di parlare di questi, però, sono stato stimolato praticamente da quello che hanno detto appunto Lille e Balitutti a proposito del rapporto tra nazionalismo e fascismo. Ecco, io sono personalmente un sostenitore della differenza sostanziale tra i due movimenti. Differenza che si riscontra sia sul piano della teoria, della dottrina politica, sia sul piano operativo, una differenza cioè che si traduce poi in un rapporto tra i due movimenti fatto di frizioni, di lotte, di contrasti, in una prima fase diretti, aperti, in una seconda fase, dopo la fusione, dopo la creazione dello Stato fascista, sotterranei. La storia del nazionalismo all'interno del regime fascista, una storia che è tuttora da scrivere, è una storia che percorre come un filo rosso tutta la vicenda fascista, ponendosi in una prospettiva critica. E questa affermazione consente poi di stabilire, di introdurre un altro discorso che si riallaccia direttamente alla relazione del professor Balitutti. Quali sono i punti fondamentali di differenziazione tra i due movimenti? Beh, io ne cito soltanto qualcuno per brevità. In primo luogo, per esempio, lo stesso concetto di rivoluzione, così come è visto, così come è sentito dai nazionalisti da una parte, dai fascisti dall'altra. Per i nazionalisti il concetto di rivoluzione è un concetto più simile al significato etimologico della parola. In altri termini, quando i nazionalisti parlano di rivoluzione, parlano di una proposta di rivolgimento della situazione politica nell'ambito del quadro istituzionale esistente. Non solo, si può dire ad un certo punto che i nazionalisti concepiscono la loro rivoluzione come una restaurazione rispetto alla rivoluzione operata dalla sinistra al potere, cioè vedono i governi della sinistra, a torto da ragione questo è altro discorso, come i governi che hanno tradito, diciamo, lo sforzo, lo slancio ideale che aveva preceduto al Risorgimento, esattamente l'opposto di quello che era stato il Risorgimento. In conseguenza di questo fatto, l'altro punto fondamentale che divide i due movimenti è il riferimento ovviamente all'istituto monarchico. Per i nazionalisti l'istituto monarchico è un principio irrinunciabile. Per il fascismo non solo non è irrinunciabile, ma per il fascismo esiste una propensione sostanziale verso l'istituto repubblicano, quali che siano gli atteggiamenti poi operativi concreti che il fascismo attua per tatticismo politico nel corso della sua storia. Questo per quanto riguarda il discorso di tipo, diciamo, dottrinario, sono soltanto due punti. Se uno invece volesse vedere alcuni riflessi pratici di queste differenziazioni, basterebbe pensare, tanto per fare un esempio, proprio all'atteggiamento dei nazionalisti di fronte ad alcuni episodi specifici. La marcia su Roma. I nazionalisti, in quella occasione, mobilitano sì le loro organizzazioni, cioè i sempre pronti, ma li mobilitano, questo non bisogna dimenticarlo, fino all'ultimo momento, in funzione di difesa delle istituzioni, quindi in funzione antifascista, fino alla notte stessa del 28 ottobre. Ed il passaggio alla rivoluzione fascista avviene soltanto quando si ha l'assicurazione che l'istituto monarchico, quindi il quadro istituzionale esistente, non viene toccato. Ovviamente questa posizione crea una serie di conseguenze nella storia appunto dei rapporti tra i due movimenti. La prima conseguenza immediata è che Mussolini, una volta giunto al potere, nel costituire il suo governo, il suo primo gabinetto, punisce gli esponenti nazionalisti. E quindi non soltanto la rappresentanza nazionalista è esigua, ma l'aspirazione fondamentale dei nazionalisti, cioè il Ministero degli Esteri, viene disattesa. Peterzoni viene assegnato alle colonie. Ed infine c'è la storia, anche questa una costante nel regime, della emarginazione progressiva degli esponenti nazionalisti in posizioni di prestigio ma non di potenza. Esempio il caso Peterzoni, che passerà alla presidenza del Senato e così via. Ecco, questo è uno dei punti di adesso, mi sono accorto che ho parlato forse un po' troppo, quindi non vorrei, avevo delle altre cose da dire su altri aspetti della relazione, della conversazione, ma se vuol dire che riprenderà dopo, so se... come vuole, o vogliamo prima fare questa prima mano, poi sì. Allora rispondo subito all'amico Perfetti. Ecco, in primo luogo io non credo, ecco, che si possa fare una storia del nazionalismo dentro il fascismo. Mi auguro che il nostro amico Perfetti vi si provi e che riesca in questo sforzo. Sarebbe certamente una cosa molto interessante, ma dubito che si possa fare. dubito che si possa fare proprio perché sì, ci sono, come dirò meglio tra poco, degli screzi, ci sono emarginazioni di singole persone, vero? Ma ormai la storia del nazionalismo diventa la storia del fascismo dopo la fusione, pur se resta vero che questa storia del fascismo, in cui è inclusa la storia del nazionalismo, sarà largamente influenzata da alcuni postulati della dottrina originaria del, del nazionalismo. Comunque, caro Perfetti, io ti prego di provarti a fare questa storia, la vedremo, la discuteremo, sarà certamente una cosa molto interessante. A proposito delle differenze che l'amico Perfetti ha notato tra nazionalismo e fascismo, che secondo lui persisterebbero al di là della fusione tra l'Associazione Nazionalista Italiana e il Partito Nazionale Fascista, io devo concedere che alcuni uomini del nazionalismo che diventeranno fascisti a pieno titolo, a pieno diritto, ovvero avranno dei toni diversi dato la loro differente provenienza, ma sul piano delle cose, sul piano della realtà, ovvero, le differenze spariscono. Ecco, mi spiego. L'amico Perfetti ha fatto una distinzione. Differenza di concezione, differenza di comportamento operativo tra il nazionalismo da una parte e il fascismo dall'altra. Vediamo la differenza dottrinaria che persisterebbe. Egli ha citato l'esempio del concetto di rivoluzione. Egli ha detto la rivoluzione concepita dai nazionalisti fu diversa da quella concepita dal fascismo. Però ecco il punto che mi preme, il punto di metodo che mi premo di chiarire. Questa differenza intanto è rilevabile in quanto la si ricerchi e la si agguandi proprio sul piano della pura teoria, vero? Perché in realtà, vero, ambedue i movimenti, caro Perfetti, concordarono nel concetto di rivoluzione, così come essa si attua, supposto che la possiamo chiamare davvero rivoluzione. Ha detto Perfetti, ma il nazionalismo concepì la rivoluzione come una specie di grande restaurazione storica di uno Stato che era stato deteriorato dalla sinistra che successe alla destra. Ma questa fu, come dire, una dichiarazione, caro Perfetti. Cioè, io non contesto che in alcuni nazionalisti ci sia stata veramente questa come dire, aspirazione restauratrice, vero? E che quindi questa aspirazione restauratrice sia stato un motivo di pensiero, vero, di questi nazionalisti che la nutrirono. Però questa aspirazione non si attuò, cioè non divenne operativa, né produsse effetti, perché la rivoluzione fascista, ripeto, non so se sia esatto chiamarla proprio così, la rivoluzione, quell'evento, vero, si realizzò secondo certe forme, raggiungendo certi obiettivi, e il realizzarsi di quell'evento, chiamiamolo rivoluzione, vero, trovò concordi tanto i nazionalisti quanto i fascisti, che concorsero insieme poi alla formazione, vero, dello Stato fascista. Dice l'amico Perfetti, ma il comportamento operativo fu differente, infatti Nel giorno 26 o 27 ottobre, la marcia su Roma si ebbe luogo il 28, c'era stata una mobilitazione delle camicie azzurre, che si chiamavano i Sempre Pronti, che avrebbe dovuto, semmai, difendere la monarchia. Anch'io ho letto queste cose, ho appreso queste cose, che cioè fino al momento fatale in cui il re non decise di chiamare Mussolini, Federzoni si adoperò molto per un differente tipo di soluzione. Federzoni voleva Salandra come capo del governo, vero? Anzi, c'era qualche accattonazionista che ancora puntava sulla carta di Giolitti, ed effettivamente, vero, le squadre, chiamiamolo, nazionaliste, vero, non solidarizzarono con i fascisti che marciavano su Roma. Questo è esatto storicamente, però nel momento in cui, vero, il re decise di chiamare Mussolini, è vero, queste aspirazioni velleitarie, vero, del nazionale dei nazionalisti, è vero, appunto cessarono, vero? Cioè ci fu concordia, vero, in tutto quello che poi avvenì, vero, nella formazione del governo e in tutti gli altri atti. È verissimo che il primo governo Mussolini, questo dobbiamo tenerlo ben presente, ebbe una rappresentanza nazionalista piuttosto così modesta, sebbene, caro Perfetti, fossero modeste anche le forze parlamentari del nazionalismo in quel Parlamento. Comunque ci fu una modestia di rappresentanza nazionalista nel governo, però noi dobbiamo tenere presente la natura di quel governo, che risultò da un difficile accordo, da un difficile compromesso tra il re e i suoi consiglieri e anche alcuni uomini che poi finirono col parteciparvi. Il primo governo Mussolini, ecco, questo dobbiamo tenere ben presente, volle essere, e secondo me l'uomo che non mancava di astuzia fu molto abile nel volerlo così, doveva essere, fu così, un governo di riconciliazione nazionale. Infatti in quel governo non entrarono solo i fascisti e i nazionalisti, in primo luogo entrarono alcuni liberali, in altri luoghi, in secondo luogo, entrarono i popolari, alcuni parlamentari del neo partito cattolico popolare, e poi entrarono uomini nazionali, Taunderevel, Diaz, vero, Gentile, uomo di cultura. Cioè la caratteristica di quel primo governo deve essere appunto ben identificata. Fu quel governo un governo di concentrazione, e Mussolini nell'accettarlo fu estremamente abile, fu ponte poi vero, per raggiungere altre rive, ma senza quel ponte Mussolini non avrebbe potuto raggiungere, ecco, le sue rive. Questo mi pare che si debba ricordare. Altre domande? Sì, sono due altre domande, però adesso devo ancora chiedere di essere brevi, anche se sembra che sia poco gentile, perché dalle 7 cambia l'orario qui anche nel bus, allora dovremmo finire più o meno fino alle 7. Allora due altri interventi, prima la professoressa Gabani e poi la sera. Io volevo fare un'osservazione che riguarda un argomento uscito nel discorso successivo alla relazione del professor Valitutti, l'uscita Sibere dall'associazione nazionalista. E mi pare che proprio nella parte della discussione non si sia chiarito che la posizione Sibile è un po' a sé. Sibile non esce perché il nazionalismo vuole avere più sul partito e non restare associazione superpartitica. E Sibile come causa occasionale esce nella polemica con Coppola per il suo articolo antisemita apparso su media nazionale. Però mi vengo di solo che l'associazione nazionale ormai sta incamminandosi verso una posizione antidemocratica. scrive dalle dimissioni nell'autunno dell'11, le dimissioni vengono accettate nella primavera del 12, prima ancora del convegno di Bologna, precedente congresso di Roma. Poi seguirono altri democratici e musei democratici. La risposta dell'Idea Nazionale sarà lasciandoci ci fortificano, ricordata anche lei con la prima. Dopodiché Sigre, e questo mi serve come precisazione dottrinale, dirà che il nazionalismo sta diventando un movimento a rebuff, cioè un movimento restaurativo, e Sigre ricorderà le simili posizioni del nazionalismo francese. Poi avviene il distacco del gruppo dei giovani liberali di Coretti, ma quella è un'altra vicenda. Poi molto brevemente mi sembra che nella definizione dottrinale politica del nazionalismo come partito forse sarebbe interessante tenere presente la critica contro il parlamentarismo che è di fine 800, cioè quella critica che proviene anche in parte da ambienti del positivismo e che viene a coincidere con lo scandalo della Banca Romana, poi con la questione dell'affare di Barbaro, la mafia che entra in Parlamento e che darà, come vi sono brevissima, non di lungo, il massimo dei suoi frutti proprio lo scritto contro il parlamentarismo di Sigre che esce nel 99. Mi pare che sia anche questa una direzione da seguire, la critica alla istituzione in quanto degenerata. E in questa critica, ripeto, c'è questa parte positivistica e c'è un fatto che effettivamente il socialismo di stampo positivistico poteva recepire taluni elementi nazionalisti. Esempio significativo il Ferri, ecco qui l'opuscolo del 29 che omaggia Mussolini. Ecco, proprio attraverso qui c'è invece un passaggio dal socialismo al nazionalismo al fascismo. Altri elementi di precisazione dottrinale, ho subito finito, sono brevissima, penso che si potrebbe anche con interesse vedere la polemica che è soprattutto sviluppata sul Regno e da Prezzolini e Papini in prima maniera contro la borghesia. Cioè questa veramente rampogna contro la borghesia dove si insiste su un fatto di classe nel degenerare dello Stato. Però è una rampogna contro la borghesia per restaurare un certo tipo di borghesia, facendomi qui parte di un programma che poi sfocerà in un conservatorismo. E altri punti interessanti, dottrinali, che ha toccati anche il professor Valitutti, è quell'atteggiamento tra il 12 e il 13 preso verso le correnti cattoliche. La teoria del Corradini che distingue tra cristianesimo e cattolicesimo, gli articoli sull'Idea Nazionale, proprio per permettere questo aggancio ai cattolici. E poi tutta la campagna fatta dal Federzoni contro la massoneria nel 1813 sull'Idea Nazionale. Anche questo è uno di quegli elementi, di quei tasselli dottrinali e operativi che definiscono uno degli aspetti del conservatorismo nazionalista. E qui naturalmente chiudo per non dilungarmi, volevo soltanto fare questi alcuni cenni per la definizione dottrinale ulteriore del nazionalismo come partito. Anch'io sarò telegrafico. Sigele ha ragione lei, ha ragione lei. Cioè Sigele si dimise proprio perché aveva fede nella democrazia e intravide subito lo sviluppo antidemocratico del nazionalismo. Però è anche vero quello che ho detto io, perché si sviluppò poi subito dopo l'uscita di Sigele e di altri una polemica sull'Idea Nazionale e Roberto Forges d'Avanzati mise in evidenza quel punto che io ho specificato nella relazione, che cioè questi volevano praticamente l'associazione nazionalista come un'associazione super partitica, questo è esatto, la volevano tutti, compreso Sigle. Però io nella mia relazione, che non ho letto in quel punto, dico proprio quello che dice lei, che cioè il sottofondo vero della questione che determinò la scissione, la secessione nel 1912, era l'atteggiamento verso la democrazia. Quindi siamo d'accordo. I nazionalisti ormai procedevano sulla loro strada e i secessionisti vollero riaffermare la loro fiducia nella democrazia, sia pure in una democrazia più virile e più nazionale, ma democrazia. Oh, il parlamentarismo, io ho fatto un accenno alla polemica antiparlamentare, sì, forse quel punto della relazione meritava di essere più sviluppato, ma quello che lei ha detto a proposito di quella polemica mi conferma anche nella ragione per cui non l'ho sviluppata. Gran parte di quella polemica non fu tanto diretta contro il Parlamento come istituzione, ma diretta piuttosto contro la sua degenerazione, cioè non si volle tanto colpire il Parlamento quanto l'applicazione che si faceva di esso, quindi siamo d'accordo. La polemica contro la borghesia, è vero, nel Regno fu molto vivace, ma era una polemica moralistica, non fu una polemica contro la classe, nella struttura della società per classi, ma fu una polemica contro la viltà, dicevano gli scrittori del Regno, ovvero della borghesia, che era anche quella l'eco di una polemica sorelliana, perché anche Sorella, ovvero, imputava alla borghesia la sua vigliaccheria e la faceva consistere nel suo atteggiamento accogliente verso le richieste proletarie. Era pressappoco, vero, lo stesso atteggiamento. In quanto al rapporto col cristianesimo, cioè col cattolicesimo, ecco, io mi limito a dire quali furono i due elementi caratterizzanti. Io nella mia relazione, l'ho avvertito stamattina, non ho trattato l'argomento, ma i due elementi caratterizzanti dell'atteggiamento dei nazionalisti verso il cattolicesimo furono i seguenti. Prima di tutto il riconoscimento del valore di coesione sociale che rappresentava la religione cattolica in Italia. Non già la riconoscevano come una santa religione, ma la riconoscevano come una istituzione socialmente educativa nella realtà del nostro paese. Secondo elemento, quello di l'ambizione di strumentalizzare la forza internazionale della Chiesa al di fuori d'Italia, però a servizio della nazione. Non l'ho citato stamattina, c'è un pensiero molto significativo di Rocco in proposito, scagionandosi contro coloro che l'accusavano di essere cattolico. Rocco disse: vedete, io sono favorevole al cattolicesimo in Italia, però vi dico subito che se l'Italia fosse musulmana io sarei favorevole all'islamismo. Ecco, ci sono ragioni sociali, diceva Rocco, vero, che mi inducono, vero, a ricercare un accordo con il cattolicesimo. Speriamo poi di poter leggere tutta la sì, relazione quando uscirà il volume. Eigentlich müsste man auch diese Diskussion übersetzen, weil sowohl vom Ausscheiden demokratischer Tendenzen, Gruppen aus der nationalistischen Bewegung die Rede war, wie von den Beziehungen, wie vom Antiparlamentarismus und antibürgerlicher Publizistik in den nationalistischen Kreisen. Ich möchte nur die Stichworte nennen, die hier gefallen sind, wie auch die Tatsache, dass eben das Verhältnis zur Kirche eben von der Ansicht bestimmt war, dass eben die katholische Kirche zu Italien mögen als soziale Ordnungsmacht aufgefasst wurde und sich deswegen der Nationalismus auch mit ihr verbünden wollte. Das ist auch etwas ähnlich wie Mussolini. Aber adesso tocca a Serra, che è l'ultimo. Sì, non vuoi fare una cosa brevissima nel senso di... Cioè, l'importanza è questo. Il dottor Valitucchi ha evidenziato in sostanza una, diciamo, l'estensione della differenza tra nazionalismo e diciamo destra nel senso di destra storica, eccetera. Ora a me sembra, secondo alcune rivoluzioni ultime del pensiero sul nazionalismo, eccetera, che il nazionalismo, riferendomi a un processo più generale, che il nazionalismo italiano, ma in più generale in tutto quello europeo, costa sostanzialmente definirsi un nazionalismo di destra, sia per le origini sia per gli sviluppi. Soprattutto messo in confronto all'idea del nazionalismo di sinistra che si è, è propagata soprattutto presso i teorici del terzo mondo, in quanto appunto il nazionalismo del terzo mondo sarebbe un nazionalismo di liberazione, cioè all'interno verso l'esterno, mentre il nazionalismo europeo era poi avuto soprattutto una funzione esterna invece che liberazione all'interno. Ecco, volevo conoscere un po' il suo pensiero. Veda, caro Serra, la disgrazia della destra storica fu quella di chiamarsi destra. E fu una disgrazia non voluta, perché ci fu una ragione storica, che adesso dirò. Perché la destra storica si chiamò destra? La destra storica si chiamò destra perché si oppose alle escandescenze, la parola non è mia ma di Oriani, alle sterili escandescenze dei rivoluzionari nel Risorgimento. Essendosi opposta a queste escandescenze sterili dei rivoluzionari, dovette chiamarsi destra. Ora, è stata una disgrazia. Perché è stata una disgrazia? Perché, badate, la destra, che si chiama destra con l'aggettivo di storica, non fu di destra. Ha ragione perfettamente su questo punto Alfredo Oriani, il quale disse, badate, non c'è stato un partito più rivoluzionario, ovvero della destra, nella storia d'Italia. Vero, ha tolto il regno al Papa, vero, ha unificato le varie regioni, ha fatto una legislazione nuova in tanti campi. Ma perché la chiamate destra? Disse Oriani. Fu un suo scatto, vero? E il nostro attuale presidente del Consiglio, citiamo anche lui perché è uno storico, il nostro presidente del Consiglio, in uno scrittarello che dedicò ad Oriani, proprio notò, dice, effettivamente Oriani aveva ragione. Dice, se c'è stato un partito rivoluzionario nella storia d'Italia è stata la destra, perché ha fatto tante cose, ha distrutto tante cose vecchie ed ha creato tante cose nuove. Però, ora ecco, io sono d'accordo con Serra che praticamente la linea di marcia, la direzione di marcia del nazionalismo italiano fu quella, vero, diretta verso il settore che si chiama destra, che intendiamoci, però queste parole spesso sono, vero, origini di equivoci, perché quella direzione così si può identificare come direzione verso un traguardo di destra. Però io stamattina l'ho detto nella mia relazione, però ci fu anche un certo populismo nel nazionalismo italiano, non ce ne dobbiamo dimenticare. E come si spiegherebbe, se questo non fosse vero, l'afflusso di tanti dirigenti del sindacalismo rivoluzionario, di tanti socialisti, perché nel nazionalismo entrarono molti socialisti, non entrarono solo liberal nazionali divenuti nazionalisti, ma entrarono sindacalisti, entrarono socialisti. Ora ecco, sì, diciamo che andò verso destra, finì con l'andare verso destra, però specialmente nella prima fase del ribollimento, vero, della dottrina, vero, ci furono anche altri pulsi di cui dobbiamo tener conto nel fare la storia del movimento. Quindi io ribadisco che i rapporti, è vero, come qualcuno ritiene, di continuità tra la destra storica considerata nella sua essenza e il nazionalismo considerato nella sua essenza, non ci sono. Perché, vedete, io sono d'accordo, vero, con quelli che ritengono che il nazionalismo in primo luogo sia stato antiliberale, in maggior misura è stato anche antidemocratico, è stato anche antisocialista, ma è vero che soprattutto e innanzitutto è stato antiliberale. Ora, se il nazionalismo è stato antiliberale, come facciamo, vero, a cucire questo rapporto tra la destra storica, che è pur criticabile in tanti suoi aspetti, tuttavia fu la testimonianza del liberalismo italiano risorgimentale, la testimonianza più insigne del liberalismo, vero? Volere proprio connettere il nazionalismo intrinsecamente antiliberale alla destra storica, secondo me è un grosso errore. Badate, io nella mia relazione l'ho detto, ma è un brano che non ho letto, Corradini, bisogna vagliato in uno scritto che apparve nel terzo numero del Regno, nel 1903, vero? Dice, ma smettiamola di richiamarci ai liberali, al liberalismo. Noi non vogliamo essere, disse testualmente così, non vogliamo essere una variante del liberalismo italiano. E il nazionalismo è stato sempre coerente. Io ho conosciuto personalmente non pochi nazionalisti, vero, ma sono stati sempre coerentemente, spietatamente antiliberali. Ne ho conosciuti, sopravvissuti, anche nel Partito Liberale in cui io ho militato e milito, ma in realtà si chiamavano liberal nazionali, ma non avevano nulla di liberale. Intendiamoci, persone tutto rispettabili sul piano personale. Io non ho nulla da dire verso queste persone, vero? Però bisogna pur chiamare le cose con il loro nome, vero? Non erano liberali, però. Also hier ging es das haben wir wahrscheinlich verstanden um die Frage Nationalismus von links, Nationalismus von rechts und um die Beziehungen und die Entwicklungen zwischen der sogenannten Destra Storica Cavours und dem eigentlichen Nationalismus, wo dann also Herr Valitutti mit dem Temperament, was Sie ja nun wieder gehört haben, erklärt, dass der Nationalismus zunächst und vor allem antiliberal und darin auch immer kohärent gewesen ist, dass er auch antidemokratisch, antisozialistisch war, dass er aber vor allen Dingen der italienische Nationalismus erklärtermaßen antiliberal gewesen ist, während diese sogenannte Destra eine liberale Kraft der Veränderung, und zwar der weitgehenden Veränderung in Italien gewesen ist. Es ist so spät geworden, dass auch der Dank an die beiden Redner sehr kurz sein muss. Ich glaube, dass wir zu unserem Thema heute sehr viel gelernt haben. L'onorevole Valitutti ci ha dimostrato e analizzato tutto l'insieme culturale nella sua profondità di questi cambiamenti nel pensiero e nell'azione politica italiana causata dalla dottrina e dall'azione nazionalista. Und der Herr Stürmer hat uns am Beispiel von 1848 aufgewiesen, in welchem Maße Nationalbewegung und Nationalismus die Bedingungen und Möglichkeiten politischen Handelns in Mitteleuropa und darüber dann auch das gesamte europäische Gleichgewicht und Mächtesystem verändern haben. Ich glaube, wir haben also viel gelernt und haben über diese beiden Referate noch sehr viel nachzudenken. Andererseits haben wir heute auch wieder gelernt, dass unsere Sitzungen sehr lang und arbeitsam werden, wenn wir übersetzen müssen. Le nostre sedute diventano molto lunghe e laboriose se dobbiamo tornare a quella pratica di cui credevo che fosse superata del tradurre. Può darsi che di tanto in tanto è necessario di tradurre qualcosa, però io consiglierei, siccome domani mattina abbiamo una relazione tedesca, quella di Rau, consiglierei di leggere un po' quel riassunto che c'è scritto qui nella nostra cartella. Vielleicht könnten sich dann, da wir heute Abend kein gemeinsames Abendessen haben, dann ja gewichtnationale Gruppen bilden, in denen man denen, die es nicht verstehen, hilft. Jetzt bin ich so reaktionär, dass ich an den Feldmarschall Radetzky erinnere, der bekanntlich die Grammatica Viva als die beste Möglichkeit bezeichnet hat, Texte anderer Sprachen zu lernen. Und in dem Sinne könnten Sie sich vielleicht heute Abend ein wenig helfen. Ich würde dann übrigens auch noch empfehlen, lesen Sie doch bitte den Schluss, die letzte der beiden Seiten von Herrn Stürmer. Wenn man die noch einmal ins Italienische übersetzte, vielleicht können wir das mit Cupelaro, facciamo forse stasera una bella traduzione, denn genau diese, queste ultime frasi della relazione, del riassunto, come è scritto qui, rende molto bene chiaramente il pensiero di Stürmer, più chiaramente che io lo potevo tradurre in pochi minuti. Vielen Dank und wir fangen morgen früh wieder um 9.30 Uhr an, mit der Hoffnung dann aber früher weg. Molto bene, complimenti. Lei è bravissimo, no, come presidente, è bravissimo. Formidabile. Sì, ma io vado con... No, con...